faccio io il riassunto. Siete in un buco all'interno di una collina relativamente sacra, sotto il tempio di Dirua ad Apeira. Siete in un tempio cubico con delle strane iscrizioni e un altare. Non c'è alcuna traccia di magia in questo luogo, non c'è niente di interessante. E al netto del fatto che vi abbiano detto che ci sono dei puzzle, non avete idea di come vadano letti, né di come vadano risolti. Tra un paio d'ore avete un appuntamento all'università, alla scuola di magia Zenith Auster, e soprattutto avete fame, che credo sia la cosa più importante. A Prego. chi se ne fotte se abbiamo fame o meno? Quindi, aspettate che riprendo. A parte che apro i rotolanti. Quanto tempo ci vuole da qua ad arrivare alla Zenith Auster? E Vero che. col treno è una fermata, quindi un quarto d'ora più. Fammi prendere a fare. Prendo anche le schede di Fateless. E meno di 1 chilometro a piedi, cioè una fermata di treno e poi 300 metri circa. No. Ok, non è così grave. Però prendendo il treno, andandoci a piedi sono 5 km. 2 km, facciamo una media di 15 km all'ora. Ah, dai, comunque poco. No, 15 km all'ora mi sa che è tanto per Dici come camminare. allora è una Dai. corsetta, Esatto. non corsa vera, ma corsetta. Adone credo che ne faccia Per 15 al fare un giorno. chilometro ci metti 12 minuti di Quanti? solito. Per fare un chilometro ci metti 12 minuti. 12 per Ah, 5, camminando piano, 60. dici? Sì, cammina. In Camminata piano media o è cammini 7-8 km normalmente? orari. Tipo quanto alta che è questa musica. Sì, ci sta. E facciamo una stima ai 10 minuti perché siete molto allenati, sono un'ora. Con Adone e Biff che boccheggiano dietro e siamo a Ah, posto. stiamo boccheggiando. Io cosa vorrei star boccheggiando? Il cazzo di tuo marito, ecco chi. È in prigione! Adone ammazza, vedi un attimo il Ora lockdown lì in qualche angolo. vedo Ma io ho diciassettenne una che alza un po' domanda di Adone tecnica. per farlo alzestare. Scusate. Dicaci. Ho una domanda tecnica, ma Adone tecnicamente non può mandare delle lettere al suo amato? Cioè, in prigione tecnicamente ci può essere un certo tipo di Non lo so, Queen, non mi sembra che io sia proprio non corrispondenza. ricercato, tipo, sono cioè, tipo ricercato dall'impero. Vuoi farlo in Dai. character sto discorso? Tanto siete in una scatola. Esatto, sì, penso Ma che. vai! Vai, Penso che cosa. tipo Biff ad un certo punto voi che pensate al puzzle e tutto il resto Vai, vai, mi e godo questo episodio di uomini e donne. perché si gira ad un certo punto verso Adone e gli fa: ma tu mandare una lettera a tuo marito? No, vero? Certo, mandare una lettera passando attraverso l'impero per cui io sono ricercato e sto scappando dalla legge. Certo, mi sembra una meravigliosa idea, Miff. Non ci ho pensato prima. Non puoi mandare qualcuno, dai. E vedi che fa tipo un segno con la mano come per dire sciocchezze le tue. Sai, non tutti abbiamo contatti con la mafia. Tipo. Metti questa parte di A, dai. Praticamente Biff si gira e noi fa: sì. io non ho contatti con la mafia. Infatti non parlava di te. Mi ricordo che Io Biff tiro esalta fuori. dalla Tiro rabbia, quindi. Is enough. fuori l'anello nero e dico tecnicamente noi sì. Sì, non ne ho abbastanza per poter mandare una lettera in prigione, inosservato, e non so come mi dovrebbe rispondere lui, quindi dovrei trovare il modo non solo di far passare inosservata la mia lettera, ma poi anche la sua. Vabbè, quello che gliela dà la porta anche fuori, dai. Come Esatto, strategia, esatto, non è vedi, vedi, vedi. un. Lieto intelligente. Lieto? È un mafioso! Vedi che Adone dà un momento così. E quindi Lieto? dov'è il problema? Io non lo sono, mio marito non lo è, non siamo dei mafiosi. Sua zia è una delle donne più potenti che ci siano, non penso che sia un problema farle mandare una lettera. E lo farebbe gratis. Cosa... Vai, glielo chiede il suo nipotino, dai. Fate questa musica. possiamo tornare a concentrarci sul puzzle. Io in realtà vi ricordo che dobbiamo andare in superficie. Oh, devo pensare ad un modo per pagare quella donna. Vedete visto che si affloscia molto di più sul pavimento, dico. Che senso? Out of game. Eddie, ti ricordi che quando siamo scesi dalle scale, cioè la tipa ci ha aperto tipo questa porta gigante, ok, e la dobbiamo ripagare perché noi non le abbiamo ancora dato nulla in cambio. Do you still remember that? Adesso Eddie lo sa, ovviamente Adone se lo ricordava. Sì, Adone se lo ricorda, esatto, immaginavo, però insomma... Noi ci ha fatto passare senza troppi problemi dopo aver... Perché ho chiesto perché dopo che Lieto ha dato un... Un manapenne. Nella file delle affari. Lieto. Ha detto qualcosa di valore, ci ho messo un manapenne dentro. Non c'è scritto non ci mette i manapenne dentro. Se è stato scritto non ci mette i manapenne dentro. Come hai pensato prima di me? Io sono d'accordo con Lieto, cioè... Sembra un po'. Se non vuoi i problemi, non metti un cartello davanti. Tipo. Non è che tutti sono informati sulle scelte religiose. Allora, tornando al puzzle. Ma qualcuno ha fatto qualche scoperta dopo che io e Ica ci siamo andati? Assolutamente no. Ma quindi siamo arrivati alla conclusione che la parte. Non sappiamo un cazzo. No, dai! Cioè, la parte di destra riguarda le stagioni, Cronos, Arva e il nostro pianeta, no? Mm-hmm. Esatto. La parete a sinistra è appunto Arva che mangia il cuore. Io poi, la cosa che non so se abbiamo capito l'altra volta, però io ho capito che questo cubo poteva essere il... Bello. Il quartello, sì, quello è sul, se ti giri appena entri c'è la mia foto. Alle nostre spalle, giustamente, perché quella la... Vabbè, non ci ho fatto caso. Allora, ma no, lascialo! È la posizione, lascialo. Di dove mettersi in base all'altare, ok? Sì. La posizione di dove mettersi in base all'altare. E poi c'è il coso numerico. E basta, cioè, ma il punto è che abbiamo capito qual è la domanda, perché se non abbiamo capito qual è la domanda non possiamo dedurne la risposta. Eddie che muore? Eddie, in iperventilazione, lasciamo stare. Adore. Abbiamo detto che una era la domanda, una era lore, e poi c'è la risposta che è quella che dobbiamo dare noi, no? Esatto. Però se non capiamo cos'è che vuole la domanda, di conseguenza non riusciamo a dire la risposta. Sì, l'ultima volta avevamo ipotizzato che la cosa del mangiare qualcuno era lore, non era la domanda. Sì, esatto. Così ci è stato suggerito. No, Bianca esatto. Non ci ha detto niente su quella, su quale cosa. Era... No, ci ha detto che la domanda era quella giusta, cioè che quella dove okay, c'è l'arma che ti dice quindi l'altra è giusta. Esatto. Ah, è vero, perché quella è la domanda, porco Dio. Che cazzo è la risposta? La domanda in realtà non l'avevamo azzeccata fino in fondo, no? dove siete, dove dovete stare. Adesso sono tre, cioè sono due scelte, quindi per forza di cosa, se quella del mangiare era la lore, perché c'era anche la formula di risoluzione, quella è vero. Però sì, secondo me è roba questa delle... sapevamo che è la domanda. Esatto. Sì, quella è la domanda. Quella sinistra. Questa è la chiave. Sì. Quella è la chiave di lettura. Però io... Questi erano i quattro elementi insieme a formare il quadrato. Questo è un pianeta, non fa che remember which, Giove o Saturno? Saturno. Saturno, ok. La lineetta the fuck I know, questa va detto che era? La lineetta sotto era il simbolo di associazione tra le due cose. Esatto. Ok, quindi è un momento temporale and un concetto. Cioè, o è quando è che Arva... Quindi questo ce lo dimentichiamo, questo lo togliamo. Esatto, cioè, quando è che Arva ha diviso le stagioni? Che cazzo ne so? Cioè, penso, perché il cerchio tecnicamente erano le quattro stagioni. Sì? Sì, che cioè, Diane ci ha in realtà detto che non è solo questione delle quattro stagioni, ma di quattro stati in generale, che può essere gli stati del corpo, le stagioni, gli elementi, quindi è tipo... generica come cosa, quindi secondo me è tipo essere anche gli dovuta... stadi della vita. Sì, gli stadi della vita, cioè alla fine sono tutte cose che hanno a che fare con lo scorrere del tempo, credo. Quindi cioè, prima l'altra volta stavamo parlando della diversità del cambiamento, forse quando ha dato vita al cambiamento. E poi c'è in basso a sinistra io che cerco di decifrare la cosa. Diciamo così, sento. Che cazzo sta? Ripartito, no? Orribile. Ripartito non ti piace? Lo cambiamo? Va no, bene come era così a 4. Ma perché mi disturbava che fosse... Ok. Io mi out. Sì. E meglio questa di qua, però, probabilmente. Okay, questo di qua. L'avete fatto? Sì. Allora, io ragazzi non ho idee, cioè, anche perché adesso sto avendo i dubbi, dicendo, ma quelli sono veramente i quattro elementi messi assieme, e non so se è una cosa positiva questa. La roba di loro invece sono... Non una proposta. Io ho una proposta. Ok. Proponi tutto. E se convincessimo quegli altri due stronzi che andremo a trovare dicendogli: ehi, c'è un enigma interessantissimo da risolvere, dateci una mano, ok? E vi facciamo vedere la magia vera, ok? Magari può essere convincente e ci può dare una mano. Propone in game questa? Esatto, è Miff che fa. Io tutto quello che sto dicendo è canone in questo momento, quindi you know it. La situazione è... Io comunque voglio un attimo descrivere Adone. Adone che c'è tipo la coda sfatta. Si è tolto la giacca, quindi tipo con il gilet e la cravatta, anche la cravatta magari se l'ha anche tolta, quindi è lì tutto un po' distrutto dalla vita a guardare le cose, poi dice... Siamo sicuri che trascinare qualcun altro in questa storia sia una buona idea? Beh, non quel tanto... qualcun altro era qualcuno che c'era già in questa perda, tecnicamente, vedendo il padre intrescato in tutto ciò. Vero, ma... Non escludo l'idea. Mi fa che vai. Yeah! Anche no, se... Tutta no. Preferirei di no. Preferisco risolverlo da solo. Continuo a guardare. Immagino voi che ne pensate invece? Cerca di guardare, però sta guardando tipo un angolo. Non c'è un cazzo lì. Cosa stai guardando, Adone? Era la mia proiezione della... cervello fuso. E poi quando non ne fai più e comincia a dire ma forse il segreto è in alto, guarda il soffitto, non c'è un cazzo nel soffitto. Uffo, lo trattate sempre male. No, non per cattiveria, solo... No, solo per un uomo. Che è esausto, no? Per averci ragionato una settimana, non aver risolto un cazzo. Secondo me era in carne. Bello però che ha dato diretto sull'omofobia. Cioè, tipo... Vabbè, non l'ha detto nessuno, però... Ci pensate che, tecnicamente parlando, i nostri personaggi hanno fatto tutti questi ragionamenti già una volta? Forse? Minchia, sì, ti immagini. No, perché con Kronos era tutto più semplice. Adesso non mi puoi dire che non... Vero. Dove c'era il cheat code. Sì. Però magari è stronto, Kronos... ce l'ha fatto fare noi lo stesso. Esatto. Fino alla fine. Sai cosa ha fatto Kronos? Kronos ci ha messi lì a risolverlo. E poi lui ha usato il suo potere per fare fast forward contro... Probabile, sì. Lo vedo. E poi ci trovava lì morti di fame, di stecchio, ah no, cazzo. È letteralmente l'episodio di Rick e Morty, dei serpenti. Di Rick che pensa al sé del futuro, tipo. Peccato per la parte di Rick e Morty, perché il resto mi sarebbe piaciuto che l'aveste detto in game. Cioè, Adone che è talmente fuso che dice, no, quel figlio di puttana mi ha usato. Siamo a tre! Esatto. Falchera esatto. Special! Scusate. Prego, ditemi cosa volete fare. Uccidervi, è un'ottima Bianchi. Domanda, signor Bianchi. L'idea di cercare aiuto esternamente non è così brutta, alla fine. Aiuto del pubblico. Aiuto del pubblico. Esatto. Anche al visionario ce l'hanno. Se volete, a sto punto Adone prende fuori il suo magico quaderno degli appunti e si copia tutte queste cose. Bello, mi piace. Quella è una buona idea. Se la copio, appunto. 5 punti a Serpe Verde. La prima volta per tutti. Serpe Verde, Adone? Ci sta. Assolutamente, ma... Serpe Verde. No, aspetta, non perché lui sia Serpe Verde, ma perché deve andare nel dormitorio con gli altri psicopatici che lo devono abusare di nuovo. Wow. C'era lui, una logica. Secondo me, sarà convinto di andare a Corvo Nero, magari Tasso Frali, Tasso Rosso, e certo fa, Serpe Verde, si cagano i pantaloni a Tone, dice, ma no. Perché la lore? Pensa come farà crescere il tuo personaggio. Vabbè, tecnicamente anche Harry Potter la Serpe Verde. Poi ci sono stati dei brogli elettorali, hanno eletto Trump. Dicevo, cosa volete fare? Tone appunto copia tutta sta roba e dice, ma adesso... Sì, sì, sì. Ok, mentre Adone sta copiando la roba, voi guardate in solenne silenzio, commentate, parlate, vi avviate. Controlliamo che non copi delle stronzate. No, non è bravo a fare queste cose, dai, poverino. Beh, è posto. Dai, che era stanco, magari sfugge a qualcosa. Io penso che inizi a tirarsi su, no, vedendo Adone prendere appunti, fa, bravo, sei utile. Si sistema la camicia, no? Adone è un geek, fa tipo così sulla corda. Senti la matita che scricchiola, poi torna normale e continua. Nibel non sono io. Sono interessato a queste cose. Ah, okay. Nibel è ad un passo dal picconare ogni singolo oggetto di pietra qui presente. Minchia, la matita l'ho così appena scoperta. Cioè, è proprio l'ultima. Sì, ce l'hai. È proprio l'ultima moda. Wow. Miliardari bastardi, quale tu sei. Assurdo quanto sono arrivate in ritardo alcune robe. Sì. Cazzo, si faceva usava prima i carboncini? Carboncini. No, il calamaio, penso. Sì, sì, esatto, c'è direttamente a Kira. Ok, hai completato il tuo lavoro, sono divisi in maniera coerente, hai segnalato anche dove si trovavano, quindi c'è tutta una serie di dettagli puntigliosi, maniacali. E basta, potete uscire da sto luogo se volete. Usciamo da questo loco. Perfetto. Risalite le scale, finisce l'effetto del manapenny di Mif, quindi gli ultimi metri li fate al buio. Voglio che qualcuno inciampi, vi prego. agli ultimi metri fate al buio, c'è un'ultima porta chiusa, ma da questo lato si può aprire, è solo dall'altro lato che serve la magia per rivelarla. Scorre lateralmente e vi ritrovate nel tempio. La signora, tutta coperta di gioielli e robe preziose, si gira verso di voi e dice: avete fatto in fretta? Sì, non abbiamo trovato soluzioni per ora. Potremmo dover tornare dopo. Per caso c'è qualche persona nello specifico che non vuole che visiti questo luogo? No, io sono a comando della baracca, quindi decido io. Appunto, parlo di lei nello specifico. C'è qualcuno che non dovremmo poter invitare qui? Non vedo perché no. L'unica cosa è che in genere faccio pagare un pedaggio. Ho fatto un'eccezione per la ragazzina. Quello non penso sia un problema. Dite che sia Harry e capelli. Quello non sarà un problema. Bene. Adone si gira un attimo verso gli effetti. Cioè, magari lei bro ne sa qualcosa di questi simboli? Proviamo a chiederle. If fa, alza un attimo le spalle, cioè tipo le stringe un po' a sé e fa... Ma lei ha presente di cosa c'è qua sotto? Reperti immagino. Archeologici, credo. Non c'è mai stata? Sì, ma cioè, quando diventi sacerdotessa ti fanno fare il giro, ma non è la parte più interessante. Suppongo che per lei sia tutta roba pagana? Sì, credo... qualche culto antico o roba del genere. Fatto sta sì. Che niente di quella roba ha un'utilità. È vero. Vedete, Mifro, che è molto accondiscended, no? È vero, ha ragione. Grazie che ci ha aiutato nella nostra ricerca. C'è noi, basta. Non ti risponde nemmeno. Ottimo. Ci avviamo. Esatto. Sto facendo i conti. No, dai, è prima di mezzogiorno. Le 11. 11 qualcosa. Siete sulla cima della collina e potete scegliere se scendere verso sud e andare alla stazione, quindi fare il viaggio col treno. Ho detto una cazzata. Oppure prendere una seconda shawarma. Esatto. Mi sono perso a prendere il treno per fare una fermata di treno e arrivare a la prima, oppure farvela a piedi. Ma andiamo a piedi, dai, cazzo. No, godiamoci le meraviglie moderne. Con quali soldi? Uno. E poi noi dobbiamo fare gli step, raga. Noi dobbiamo tenerci in forma. Oh. Vabbè. E il lieto non ha questo problema. Mettete la appena scuotato tutte le scale. È la seconda volta, perché l'ha fatto alla prima e immagino che l'ha fatto anche la seconda. Audi, adesso ho una domanda. Vai. Noi non siamo più vecchi di prima. No. Ok. Cazzo, quindi ha perso. Beh, tecnicamente parlando, sì, lo siamo. Il vostro fisico è come quando siete usciti dalla chiesa. Ok. Sì, ma tecnicamente parlando, nel momento in cui hai finito di dire la frase, sei più vecchio di prima. Wow. Possiamo andare avanti. Non ti facevo così filosofico. Una sincope, vabbè, ragazzi. Non era nemmeno io. Andiamo a dormire proprio. Chiudiamo qua la giornata, ricominciamo domani. 21 minuti di sessione. Questo è il livello a cui riusciamo ad arrivare. Prego. Non mi avete detto che strada volete fare. Se volete rifare il tour verso... Il lieto vorrebbe prendere la nuova meraviglia moderna, che è il treno. Andrebbe e se vogliamo prendere il treno ci costerà 4 vanapenni. Signor Master, può pagare lieto. Che lieto si potrebbe permettere, ma perché pagare? Cominciamo con cioè, la Milano Special. No, no, no, non vedo il problema, è una fermata, mica facciamo dei chilometri, cioè... Tanto di là ci devo andare comunque. Se facciamo in tempo per il cibo, possiamo fare tutto quello che volete, l'importante è mangiare. Quindi abbiamo un voto per andare a mangiare, un voto per andare dritti all'università, un voto per andare in treno. Mi aspetto che nella zona universitaria, suppongo, ci siano delle parti dove si può mangiare, sì, no? Sì, sì, anche sì, secondo me. Allora andiamo verso l'università. Ed eventualmente possiamo trovare un luogo dove mangiare in zona. Verso l'università? Come? Con il treno. Un voto del treno a piedi. Con il treno, scale, sì, magari. Con le scale il treno lo farei. Quindi due per il treno? Treno. Ok. Yeah! Sono molto contento che abbiate scelto così in fretta questa cosa. Dai! Fondamentale. Facevamo di peggio. La scalinata che prendete è quella a sud, quindi dovete circumnavigare il tempio, che è bello grosso, cioè ve lo godete tutto. Avete la visuale dall'alto e vedete chiaramente... Pirenia, che sarebbe il porto di Apeira, si vede il tempio di Zagon sul mare, si vede il tempio di Vama in mezzo a quelli che sembrano dei giardini, e andando oltre c'è la stazione dove dovete prendere il treno e subito dopo la centrale di Mana, perché è costruita così la cazzo di città. Ok. E la stazione è la stazione della centrale di Mana, a pochi chilometri di distanza da essa. Quindi scendete la scalinata, che è molto bella, molto moderna, e arrivate nello spiazzo, diciamo, a sud della collina. C'è un percorso di terra battuta che porta direttamente alla stazione. È dritto, cioè non potete sbagliare. Nessuna reazione, vado avanti, Perfetto. Sì, continua pure. Proseguiamo. Sulla vostra destra vedete il quartiere, un pochino in distanza, voi come se foste nella stradina di campagna fuori dal paese, no? Che gli passa vicino ma non vicinissimo. E in mezzo ci sono dei terreni, non direi agricoli, direi più spogli. Qualche cespuglio, qualche albero, per lo più... pianeggiante, però realisticamente qua verranno costruite delle case in futuro, non serve avere la visione del futuro per immaginarlo. Il percorso di terra battuta continua a costeggiare l'ultimo tratto della ferrovia e arriva a un ponte. Il ponte è costruito praticamente uguale a quello che avete attraversato prima, cioè molto prima. Questo è l'ultimo fiume di Apeira, quello più vicino alla centrale. Se vi interessa il nome ve lo cerco, altrimenti proseguiamo. Proseguiamo. Come l'altra volta dovete dirmi l'ordine con cui passate, perché ci passa una persona alla volta. Io da sto giro faccio da... Ah no, vai. Vai. Se vuoi andare per primo, vai per primo. Sì, volevo andare... Lo facevo da aprifila perché ero della zona, però se vuoi andare per primo... No, sai cosa fai tu da aprifila e io vado per ultimo, così nessuno mi butta giù dal ponte, porco dio. Ok. I know my chickens. Vado per primo allora e do un'occhiata anche all'acqua per vedere un attimo che movimento c'è. Mi mancano Adone e Mif, che prima Adone o prima Mif? Prima Mif, vado... Adone è ultimo. Sì, prima Mif o prima Lieto, pardon. Prima le signore, faccio segno a Mif. Mif alza semplicemente un sopracciglio e fa grazie. Perfetto. Vedete in lontananza arrivare il treno alla stazione, quindi fate in tempo a prenderlo. E vuol dire che non passeranno treni di qua, quindi non sarà così burrascoso il passaggio del ponte, che comunque è piccolino, non è una roba drammatica. Non essendoci il treno, riuscite a vedere attraverso la ringhiera verso est, e Vedete che il fiume scompare tra le montagne che ci sono ad est di Apeira. Sono proprio delle montagne, cioè hanno anche un'elevazione notevole. L'acqua è di un colore vaghissimamente innaturale, nel senso, se l'acqua normalmente è del colore del cielo riflesso, qua è proprio blu. Qua è proprio blu. Un bel blu. Blu Penny. Come? Bel blu mana Penny. Blu mana Penny, però un po' diluito. E non ci sono piante che crescono vicino all'acqua, non ci sono le tipiche canne, non ci sono quelle cose lì. Anzi, è tutto abbastanza spoglio. Il fiume in sé non è profondissimo. Probabilmente nel punto più basso potresti starci in piedi. La testa rimarrebbe fuori. Per adone. Dipende dalla persona. Mi fa sotto di tanto anche. Sì. E per il resto non è, non sembra eventful, non, l'acqua non è pulitissima, quindi non si vede se ci sono degli animali sott'acqua. Il nuovo nome della campagna. Ok. Eventful. E è come se ci fosse uno strato d'olio che copre la visuale sotto. Per farvi un paragone, non che c'è uno strato oleoso che è... c'è l'olio sopra, non si vede il liquido sotto bene. Ok, benissimo. E boh, basta. Se non volete fare niente di particolare, tipo uno strato melmoso. Sì. Però lucido, di colore blu. Ok. Perfetto. Proseguite. La strada prosegue dritta per un altro chilometrino, un pezzetto. E vedete in fondo, ora senza nient'altro davanti, perché la stazione è sulla vostra destra, per capirci, la centrale di Mana. È diversa dalle centrali di Mana che due di voi hanno visto finora, Lieto e Adone. Mif aveva già visto questa centrale, che comunque è simile alle altre di Akaies. Mm-hmm. E Nibel ha visto solo questa, quindi credo che sia familiare. Notate, però so che è tra le più moderne comunque questa. Sì, è una delle ultime costruite. Si vede chiaramente che c'ha una parte esterna costruita, non dico a caso, però chiaramente non serve nessuna funzione se non estetica, e tende a richiamare lo stile architettonico tradizionale a Caias, cioè ci sono delle colonne finte fondamentalmente, la versione breve è questa, degli archi finti, cioè non reggono nulla, sono solamente estetici, dei bassorilievi. E questa cosa, se l'edificio fosse in mezzo a una città, effettivamente lo potrebbe far sembrare un pochino più anonimo. Purtroppo è nel mezzo del nulla assoluto, cioè non ci sono edifici. L'edificio più vicino è la stazione, che è a qualche chilometro di distanza, e dopo l'edificio non c'è nient'altro. Cioè l'edificio che costituisce la stazione, non c'è nient'altro. Nulla. Ci sono i campi intorno. Anticamente dovevano essere campi coltivati, perché si vedono i resti dei recinti. Ora però sono incolti. Incolti o quantomeno desertici, cioè non cresce nulla. O vengono mantenuti, non si capisce. Anche quelli della famiglia di... Sì, cioè non sapete quali sono i suoi esatti, però... Ok. Da ste bande erano. Sì, c'è differenza quando un campo è incolto, nel senso che è in un luogo dove non va nessuno, e quando un campo è incolto, nel senso che non ci coltivano. La seconda, in questo caso, non ci coltivano. Ok. E niente, la stazione, come vi dicevo, anche questa ha uno stile architettonico che richiama Akaies. E notate che la gente che entra ed esce dalla stazione sono solo esclusivamente dipendenti della centrale, che si riconoscono, per quelli di voi che hanno avuto a che fare con loro, per le divise. Cioè c'è un personale militare che ha una divisa militare che richiama quella dell'impero, nonostante non siano soldati imperiali, e la divisa da laboratorio, che sono fondamentalmente dei camici ante litteram. Sono persone normali, non c'è nessuno di psicotico, di stranissimo, che... gente, lavoratori, operai. E... ma si vede la mia abitazione da qua? Quella che era la mia abitazione prima? Allora, bella domanda. In realtà c'è talmente poca roba che in lontananza dovresti vederla. Okay. Sì, cioè si vede il rudere ed è proprio un cubetto all'orizzonte. Ci do un'occhiata veloce, non ci rimango troppo con lo sguardo. Se non dici nulla loro non si raccolgono nemmeno. No, no, no. Quello che vi accorgete tutti, chi ci fa caso, è che fumano tutti. Cioè tutti i dipendenti della centrale fumano. No, mi fumano cosa? Tipo è... gli pago una sigaretta, tipo. In maniera molto amichevole, come è l'uomo in questi luoghi così ospitali, ti passa una sigaretta. Grazie, grazie. E il treno è già arrivato. Dovreste fare i biglietti e salire a bordo. Saliamo a bordo. Vedo i biglietti. Biglietti? Fai una fermata. Dobbiamo proprio pagare i biglietti. No, no, non fanno entrare. Non va. Oh, ma se facciamo abbastanza in fretta non se ne accorgono. Non si aprono le porte. Ma dovranno entrare quelli con quelli che devono passare, questi qua. Va bene, andiamo a prendere i biglietti, va bene, va bene. Bimbo. Bravo tesoro, e gli dà una pacchetta sulla spalla. Donne gli dà una pacchetta sull'altra spalla. Quanti biglietti vuoi fare? Uno, che domanda. Glielo passo indietro dopo che l'hanno controllato. Il biglietto. Glielo passo indietro, ma non funziona voi, così. Come forse qualcuno di voi si ricorda, io... il biglietto si fa entrando nel treno, metti una moneta e si aprono le porte. E transenne. Ci dare i soldi. Ok, ok, va bene, va bene. Paghiamo questi biglietti, mannaggia Cristo. Paghi 4 biglietti, quindi? 16 monete, 16 manapenny. Mi sta da svenà. No, no, no, no. Quattro. Biglietto è una moneta. 4 biglietti. E allora ve li lancio. Vai, segnati. Uno per uno, infila la monetina nella buchetta e voi potete entrare nel treno. Grazie, Lieto. Sei così gentile. Sei tu l'unica miliardaria qua. Messi i soldi, fidati, non l'avrei già fatto. E voglio prendere. Tipo, Mif ti guarda e fa... Guarda, vorrei che tu ci parlassi con mia madre. Secondo me ti divertiresti. Organizza un incontro. Vediamo che succede. Vi ho già descritto a tutti il treno. Il treno è un topos ricorrente. Il treno? In campagna. Specialmente ad Apeira, vabbè. E... però i treni sono praticamente gli stessi in tutto il mondo perché vengono costruiti ad Oclica e poi esportati. Le panchine del treno, le chiamo panchine perché sono di metallo e stroflesse, quindi più che sedili sono delle panche, foderate in pelle. Sono decisamente comode per gli standard di gente che vive male, sono scomode come la merda per gli standard di gente che vive molto bene. Quindi abbiamo un po' tutto l'array... di possibilità. Sui muri ci sono i meccanismi del treno in bella vista perché devono farlo vedere. E non flexare. Esatto. E... ma dove una parte di te sui muri? Non ci sono posti assegnati. Non glielo assegnati. Dici veramente? No, no, non glielo dico veramente. Essendo un treno che fa una tratta molto piccola, non ci sono posti assegnati, ognuno si mette dove vuole. E come vi dicevo, insieme a voi, con molta più calma di voi, salgono gli operai, insomma la gente che lavora alla centrale e che, a giudicare dalle facce, deve aver fatto il turno di notte. Posso fumare sul treno, vero? Sì, sì, sì, non esiste il concetto che il fumo faccia male. Okay. Ti metti vicino a una finestra oppure fai... No, dove mi siedo? Cioè, così a cazzo. domanda, sono tipo carrozze stanze come il viaggio da... No, queste sono quelle regionali, quindi praticamente hanno le panchine a destra e le panchine a sinistra. Adone? Ok. Mi dica. Ti ricordi quando è stata l'ultima volta che sei stato su un treno del genere? Certo, io immagino che Adone sia un po'... Bene. No, era... Grazie. No, tranquillo. Adone è un po' wary, ma oggettivamente c'è una parte anche razionale, sai, che dice abbiamo risolto tutto, non vedo più i sigilli, quindi a posto. Scricchiola un sacco la panchina. Siede. Scricchiola. Cubi. Scricchiola. Cubi. Cubi. Però posso dire, un gran bel treno. Siete... 3 su 4 tranquilli, 1 su 4 meno, e dopo un po' il treno parte, c'è uno scossone che fa sobbalzare uno di voi più degli altri, e boh, c'è l'accelerazione, il treno va a 40 km orari, non è che è un fulmine, però raggiunge rapidamente la sua velocità massima, che è la stessa velocità di crociera, quindi fantastico, e vedete scorrere dal finestrino tutti... i paesaggi che vi ho descritto finora. L'unica cosa nuova è che passate dentro la galleria della sotto la centrale. Ciao, la cattedrale. Ma i treni da quanto ci sono? Bella domanda. I treni ci sono ad Apeira, ci sono da quando c'è la centrale, oppure siccome la tecnologia delle centrali esisteva da prima importavano le batterie? Le importavano prima, e le tratte fondamentali le hanno fatte prima. I primi treni sono solo dell'impero, quindi erano di epoca, credo già nel 1550 ci fossero già i primi prototipi di treno ad Oclica. Poi li hanno esportati nell'impero e poi hanno fatto delle linee singole che collegavano le varie regioni. Quindi c'era un treno che da Oclica arrivava, come cazzo si chiama il posto dove vive Mimi? Oh mio Dio, Uferland. Sì, ok, non Uferland, vabbè, la punta del paese prima. Ce n'era uno che arrivava a Cairoma, ce n'era uno che arrivava a Lonera, ce n'era uno che arrivava ad Apeira. Apeira forse l'ultimo di questi qua che ti ho detto, perché era la meno importante. Si basano tutte sulle tratte commerciali, quindi... quando qualcosa non è su una rotta commerciale principale, viene un po' meno. La città più importante per il commercio in Achaies non è Apeira, è Aniasmea, che sarebbe Istanbul, che è in Grecia. Se qualcuno vuole discutere di questo fatto, possiamo farlo, però oggettivamente Istanbul è in Grecia. È in Grecia, no, niente contro Istanbul. No, era un... È in Grecia, io. Un commento, un po' sa. Ok, niente, l'unica cosa nuova è che entrate dentro questa galleria ed Eddie mi deve fare un bel roll di 10. Va benissimo, siamo pronti qua. Grazie. A sborrare. Io ogni volta che entro su Roll20 mi dimentico di fare il launch game, ma perché devono esserci due bottoni per fare la stessa cosa? Dio Cristo! È un test di resistere, quindi tu sommi 2 al risultato. Fatto 6. Allora, vorrei sapere come siete disposti nei sedili. Ricordami un attimo, sono disposti tipo a treno normale, quindi panchina, ma tipo in senso orizzontale? No, si guardano in faccia uno con l'altro. Ah, ok. Sono ai lati del treno. Ah, ok. Dobbiamo sederci per forza. Ma no, potete stare anche a piedi. Allora si è seduto. Non sono seduto anch'io. Dal lato opposto alla marcia del treno. No, ma siamo... guardiamo... Sei lungo il vagone. All'interno. Ah, ok. È tipo come la metropolitana. Esatto. Ok. E allora, niente. Seduto. E seduto vicino a me o no? Siamo in 3, quindi a meno che proprio non ci odiamo. Ok, ad una al centro e loro... lontana da dietro, perché se dietro fuma, Miff è lontana. Ok. E allora Adone per forza in mezzo. Miff, Adone, lieto, perfetto. Entrambi... Io sono in piedi appeso. Entrambi sentite un tremolio. Hai presente quando sei seduto e c'è qualcuno che fa quella cosa con la gamba, di ballare con la gamba? Mm-hmm. Ok, sentite fare questa cosa qua. Vi girate entrambi contemporaneamente e c'è Adone che sta facendo quella cosa e sta sudando visibilmente. Allungo la sigaretta ad Adone. Adone si gira e dice: perché? Tieni, tieni, aiuta. È spaventoso il tè, non lo capisco. Allora, Adone forse un'altra volta l'avrebbe un po' insultato, preso male. Però, infine, dice... Domani muoio. Adone ha mai fumato? Domanda genuina, sì. Dimmelo tu. Si fuma nei caffè letterari, cioè nel senso... Fumano praticamente ovunque. Infatti, è più frequente fra i lavoratori per motivi sociali, però sì. Metti che qualcosa avrà fumato, però lui dice... Ah, le alte elite universitarie spesso se la tirano e non fumano, o fumano solo sigari o pipe o robe strane. Infatti secondo me ha provato a fumare dei sigari, delle pipe, sigarette, no. Infatti vedi che dice, provo e provo a fumare. Vedi, vedi che ce la fa tranquillamente, effettivamente. Cioè, un attimo, però vedi che è evidente un po', sarà il gesto... Sarà il concentrarsi su fare qualcosa. Quando sbuffi, il fumo che emetti per un istante, che è nero, è scuro il fumo di questa roba qua, ti sembra una stella marina. Cioè questa forma di... Mi passo subito la sigaretta. A posto. Lo vede solo Adone, sta cosa qua. Voi siete nel chill. Ok. Grazie, grazie. E continua a muovere la gamba. Sì, sì, sono un po' mai queste. Sono diverse da quelle di Oclica. Nei tempi fumavano solo Pueblo, probabilmente. Da un razzo con furore. La galleria come termina. Come fumare corteccia, tipo. La galleria termina. E con la luce del sole, vabbè, quella poca luce che filtra dalle nuvole, quella sensazione di oppressione e claustrofobia che stavi sviluppando va scemando. Hai avuto un brutto minuto, però. Bellissimo minuto. Non sei tenuto a parlare e a spiegare un cazzo agli altri, cioè... Il cazzo! Perfetto. Mister mi prende per il culo, signorina mi prende per il culo parte 2 e il signor Nibel ha un minimo di rispetto, ma non lo voglio disturbare. Certo. Non ho più paia idea di cosa sta succedendo in questo momento. No, sto guardando fuori. Di osti per i sì, sì. No, sto guardando fuori, c'ho la mia pipa, anch'io sto fumando e sto pensando... In realtà sto cercando di non pensare che è diverso. Stai ferma, non mi buttare i dadi di uno a terra, stupida cogliona. Non mi mordere. Ma che hai stasera? Chi lo sa. Tu ne sei qualcosa di pussigerosa, Vianici. Stai zitto. Siamo a metà strada del viaggio in treno e cominciate ad entrare nella città. Quindi, se non erro, ci sono le mura, il treno deve rallentare perché non può andare a tutta velocità nel tutissimo centro abitato. Va a 38 all'ora, ora. Infatti dicendo, boh, è quella la velocità a cui possono andare le macchine in centro abitato. All'epoca era diverso. Andiamo a 10 allora. Molto più piano. E... Volete overhear delle conversazioni nel treno? Non ve ne frega un cazzo, arriviamo, andiamo avanti. No, ma il dietro si avvicina anche ai lavoratori della centrale, magari, tipo. Gli chiedo del più, del meno. Come va? Com'è il lavoro? Ma la centrale, tutto bene? Ma... Allora, uno in particolare, ne interpreto, tanto per... Vai, vai, vai. Parla con un accento molto marcato, che in questa zona segnala... l'essere di basso ceto sociale. È un gioco di fantasia, nella realtà chiaramente non è così. Vabbè, Pjanic. Dimmi. Ma è sempre le solite cose, io sono un alchimista, quindi la giornata è abbastanza allenante, arrivo, creo del materiale, mi riposo, creo dell'altro materiale e così via. Tutta la mattinata. Stanotte ho fatto il turno di guardia. Devo controllare che non esplodesse niente. È andato bene. Mi sembra non sia esploso niente, infatti. Gli do tipo una comitata. Tutto bene. Tutto bene. E neanche negli ultimi giorni niente di strano, vero? Non... No, la centrale funziona normalmente da noi. Ho visto... Ti guarda, nota che hai la cazzo di spilla. Dice... da voi invece non proprio uguale, eh? C'è un motivo da queste parti. Sta, immagino. E lavoravi alla centrale? No, non lavoravo alla centrale, ma ho avuto il piacere di dargli un'occhiata da vicino. Alla grande centrale di Orly. Sì, ci sono stato anch'io da ragazzo. Bella. Con un sacco di avatar dentro. Scusa. Lo dici davvero? No, che dopo magari si muore davanti. Esatto. Grazie a qualcosa, una borsa. Io ho 12 persone nel treno. Istantaneamente. Cazzo. Fate chit chat. Io in realtà quando dice che la centrale sta lavorando normale, tutto tranquillo, mi poppa un po' una vena sulla fronte. Al momento me lo tengo per me. Perfetto. E chit chat, cioè conversate delle ultime cose, ora vedendo che sei della Zenith ti parla di robe di ricerca. Ok. Quale... Quindi niente di così interessante. Glielo puoi anche dire in faccia, guarda, non me ne frega un cazzo, se pensi che sia in character. No, vabbè, non è... Cattivo. Non è annoiato, ma non è neanche... Ok. Entusiasmato, è mediocre questa cosa. È una persona che parla. Una persona che Men parla. Che non si dica, arrivate alla stazione centrale di Apeira. Bellissima stazione centrale di Apeira, costruita tra le mura e l'acropoli, quindi in uno spiazzo. Scendete dal treno e dovete praticamente attraversare un ponte e siete già nella scuola di magia. C'è del cibo. Nella scuola di magia c'è un piazzale con tutti i negozi. Ti hanno detto, spiegato, raccontato. Ok, a posto. Se no, allora, sali nell'acropoli allora... ci sono i ristoranti, però. No, cibo. Lo da università, maligno. Bene. Volete andare là diretti senza fare altre fermate o vi interessa fare qualcos'altro di... Che devi la storia? No, io no. Mi dai un quick reminder, Bianice? Io non li ho finiti i cosi. No, li avevi ricomprati. Li avevo ricomprati, infatti, quindi sono un po'... Aspetta che sì, i gondoni. Ah, ne ho due di sonniferi. In caso c'è sempre nei romanzi che ti fa dormire come un bambino. La volta ha funzionato benissimo, tra l'altro. Non so che non userò più quei sonniferi, però... Ok. Attraversate il ponte, questo è un ponte normale, non è come gli altri ponti di merda, e avete quella brutta sensazione... Mi sento a Genova. La brutta sensazione che io avevo, ma non so se è condivisa da altre persone, di quando sei una persona normale e tutte le persone intorno a te stanno andando all'università. e tu non ci vuoi stare lì, perché tu non ci devi andare in università. Però loro ci vanno, e quindi sei in mezzo a questo gruppo di persone brutte, proprio persone cattive, che vanno in giro. È un'esperienza mia, non è detto che voi la condividiate. E sì, e attraverso... Vabbè, però se ci pensi, cosa distingue loro da te? Sono all'università con uno zaino? Cattivi è l'unica danni. Cosa che diverge nell'evoluzione umana. I capelli colorati non credo proprio. I capelli non colorati. No, è proprio la foglia di morte. La foglia di morte, esatto. Cioè c'erano quella sensazione di essere in mezzo a degli zombie e non poterli esorcizzare come invece... E se uno è felice allora non sta andando all'università in questo momento. Se uno è felice sta venendo dall'università. Cioè c'è questo array di persone che vanno via che sono felicissime e questo array di persone che vengono che sono tristissime. A parte che io da quando ho smesso di andare alla scuola comics, tutta la mia famiglia fa complimenti. Ti vediamo così rilassato, stai così bene. Vedi, vedi. Allora, almeno Adone condivide questa mia opinione. Gli altri sono liberi di avere un'opinione diversa. Io vi ho raccontato una parte della mia emozione che secondo me è come si fa per bene la narrazione. Oh. Quindi, quando andavo all'università era tipo... Io devo andare in bagno. Vai in bagno. Buon appetito. Dai, 5 minuti. Io pausa. Quando... quando andavo all'università tipo ero in una sorta di trance, stanchezza e depressione, quindi non ho minimamente la percezione della gente che c'avevo attorno. A meno che non ero sul pullman e secondo... Ti dai una sistemata piane, cioè stiamo facendo fitness o siamo a troie e altre compagnie varie, perché... Lavati i capelli, sentire di fare la troia. Vabbè, fai quello che vuoi. Appunto, è per quello che è chiaramente un... Non so se hai visto quanto mi sono cresciuti. Madonna! Cioè, quant'è che non mi vedi? Wow, baby girl! Ma scusami, altro che estrogeno qua. Infatti, l'unica cosa... Cioè, se venissi estrogeno mi verrebbero i baby hair qua, che forse... Se non fa. No, sai quelle cremine? No, ti fai poi i ricciolini, come le ragazze nere. Io mi sono tagliati i capelli comunque, Bianic. Quanto corti? Molto. Molto. Nazi skin o essere umano? Essere umano. Ok. Non ho una foto decente, quindi non... Falla ora. No, è... Cioè, mando una foto... Non la possiedo. Fisica, manca l'oggetto. Hai fisico. Un telefono? Ho un telefono, quello è vero. Ma Discord non accetta che... due dispositivi contemporaneamente. Vi posso mandare una foto in questo momento, ma... Quanto la voglio cagare fuori al baratto? Ciao Sal. Back again. No vabbè, la dai, pensavo una roba più drammatica, invece stai anche bene. E in realtà ai lati sono molto corti. Ah. Giro si vede... Qualcuno manda una foto. Si vede poco. Ica, già ti voglio bene, però ti vede un po' poco. Sì, no, ma cioè, perché c'è buio e... Non... È come la gente che ogni volta mi vede così dice: oh mio Dio, ti sei tagliato i capelli? No, raga, ce li ho raccolti qui. Ma ogni volta. Adesso che io e Ossa abbiamo entrambi scelto per cappuccio e cuffia. Sì. Ho bisogno di tenermi la testa al caldo. Siamo persone diverse. Allora, io in realtà ho usato questi momenti per preparare quello che sta per succedere. E ho una di due scelte. La prima è tirare un dado e go with it. La seconda è andare a vibe. Vi lascio scegliere. Let's go gambling. Fatelo gambling. Dado? Dado. A questo punto. Ma dobbiamo cagarla fuori dal barattolo. Al bulacco. Dai, è uscito 6, quindi va bene. Arrivate al piazzale della Zenith Auster. Forse dovrei cambiare musica, intanto che vi descrivo la cerco. Ma mi dispiace, ma non c'entra un cazzo con la Zenith Auster, secondo me. C'ha quel difetto lì. Okay. Dicevo, il piazzale della Zenith Auster è dove ci sono tutte le robe interessanti della scuola di magia. Dico, nel senso di contrapposto a dove si fanno le lezioni, che non sono interessanti. È un simpatico gioco. Ok, ci siamo. È un piazzale rotondo, però per il primo semicerchio ci sono le costruzioni, gli edifici, quindi è diviso in 6 dipartimenti, 3 a nord-ovest e 3 a nord-est, che corrispondono alle 6 scuole di magia tradizionali. Differiscono da quelle odierne. Questo è il significato. L'altra metà del piazzale non ha degli edifici. In compenso, di recente sono state messe delle tende, diciamo. Avete presente quelle impalcature con le tende che si mettono per le fiere, per capirci? Una roba del genere. Sotto le quali ci sono dei mercanti, quindi anche gente che vende cibo, vivande, roba calda, gente che fa un sacco di affari perché questi sono universitari. Dei gazebo. Sì, esatto, però temporanei, non fissi. Al centro della piazza c'è una fontana alimentata dalla magia. Tendenzialmente c'è un tirocinante, forse è il termine corretto, di magia ontica che passa la giornata ad attivare la cazzo di fontana. Questa è una tradizione antica che si sono portati dietro fino ad oggi. E è a turni, cioè fa un paio d'ore, due o tre ore un tirocinante, poi arriva il prossimo e così via, tutto il giorno. E chiaramente lo fanno fare ai tirocinanti. Esatto. E fa crediti, fa punteggio, quindi. E loro si impratichiscono con la magia ontica. Intorno alla fontana ci sono sei statue. Le sei statue rappresentano sei esseri umani al vostro occhio, di persone che non sanno chi cazzo sono questi. Hanno tutti un outfit particolare, diciamo. Io ve li descrivo in ordine sparso. Dovrebbero avere un ordine preciso, ve li descrivo in ordine sparso però. Il primo è un giovane uomo, mediamente muscoloso, con dei pezzi di armatura, quindi non l'armatura completa, tipo una spalla sola, un gambale solo, cose del genere, con un'aureola intorno alla testa. Ha una fiaccola, uno scettro di qualche genere, che punta in alto. La seconda statua rappresenta una donna. La feature principale di questa statua è che ha delle corna. Per il resto è una donna molto bella, proprio l'ideale di bellezza tradizionale greca, quindi fianchi importanti, un buon seno, non una cosa esagerata da Venere antica, e proporzioni perfette, cioè è una statua di una persona perfetta. Gli abiti sono lunghi, quindi affascinante in un modo sobrio. Non credo abbia niente di che in mano. No, ha solo il braccio alzato. Vabbè. Il terzo è un uomo muscolosissimo, a petto nudo, con solo un gonnellino, diciamo, che lo copre. O lo facciamo nudo? Lo facciamo nudo. Un uomo nudo, non gliene frega un cazzo a nessuno, è molto più realistico. Muscolosissimo, con una perfetto. Foglia di fico, no, nemmeno. Fra qualche anno gliela metteranno perché il gusto cambierà. Al momento è questo gigantesco uomo con un pene molto piccolo e in mano ha un tridente che punta verso l'alto. Ha una grande barba, insomma, un uomo importante. Il quarto è un soldato, quindi in full armor, elmo, corazza, plate armor, eccetera, con una spada che tiene dritta verso l'alto, e dovrebbe avere il simbolo della lettera greca teta un po' ovunque, cioè ce n'ha uno sul petto, ha un mantello sopra l'armatura con lo stesso simbolo, e lo stesso simbolo compare sull'impugnatura della sua spada. Poi c'è un'altra donna, questa ha degli abiti molto lunghi, capelli molto lunghi, lunghissimi, e tiene in mano un libro e lo tiene verso l'alto. Non ha feature particolari. L'ultima statua, fate fatica a capire se sia un uomo o una donna, è un androgino, diciamo, una figura senza genere, e ha un bastone, non si capisce cosa sia di preciso, cioè un oggetto che sembra fatto di legno, ovviamente è fatto di marmo, è una statua, però l'oggetto sembra imitare la struttura del legno, e quindi potrebbe essere o un arco senza la corda o un bastone particolare, insomma non si capisce cosa cazzo sia. Ha i capelli mediamente lunghi e raccolti da un cerchietto, anche questo vagamente ligneo. E i suoi abiti sono corti, ma coprono giustamente tutto il corpo. Queste sono le sei statue intorno alla fontana, e sono disposte equidistanti in modo da formare un esagono perfetto. La piazza è ghermita di studenti e alcune persone che chiaramente sono dei professori, a giudicare dall'età più che da altre feature. Essendo ora di pranzo, sono tutti a mangiare ed è un ambiente molto democratico, quindi non è che i professori hanno la loro area e gli studenti un'altra, si mangia tutti insieme. Anzi, quando un professore è abbastanza... È sempre la canzone sbagliata. Bravo, anche sentito, sai? Ero talmente preso. Gli amici terroni sono fumicusi, vero massacro? Gli amici terroni. Quella line. Froci? Mi ha detto pure Froci? Perché no? Grande plant della sed. Vabbè. Dicevo? Sì, capita anche spesso che un professore chiede... porti la sua classe a mangiare e paghi lui o lei. Il rapporto ad Apeira tra uomini e donne in università è quasi del 50% esatto, cioè le differenze sono dovute a fluttuazioni statistiche e non a effettive disparità di genere. Però ci sono delle disparità, nel senso che certi corsi vengono scelti di più dagli uomini e certi corsi di più dalle donne. Vi ricordo che non esistono in-betweens in questo mondo. Siete liberi di fare quello che cazzo vi pare, siete in anticipo rispetto all'orario che vi hanno dato e, se non sbaglio, avevate un'aula libera dove incontrarvi o comunque un luogo dove incontrarvi, giusto? Cosa, tipo la roba del tè, ci hanno inventato. Di qua, sì. Sì, sì. Perfetto, ditemi voi come procedere. Cibo! Fame! Se veniamo guidati dall'olfatto, cos'è che ci colpisce di più? Il piatto tipico di Apeira sono le fave. Cioè, what the fuck? Sì, sono proprio le fave. Qualcos'altro di cibo vero? Il moussaka. Cos'è che hai detto? Il moussaka. Che cazzo? Ma lo shawarma, dai! Lo shawarma, lo shawarma, il moussaka, il moussaka, come cazzo si dice voi? Il pasticcio, ragazzi, dai! Pasticcio, qua! Non sapete... si chiama moussaka! Fatemi una ricerca, aspetta che lo trovo. Magari qualcosa di pesce, non so. Sì, dovrebbe essere di pesce. Dai, fritto misto! Fritto misto. Sai che si fa pure con l'olio qua? Appunto, sì. Quindi... con cosa altrimenti? No, è che nel brodo, ma no, qua è proprio olio full on, secco. Sì, che pesce... tipo della cucina greca. Pesce grigliato più che fritto, molto comune, va molto, ce n'hai l'imbarazzo della scelta. È cibo vero, non è cibo generato con l'intelligenza artificiale, con le macchine, è cibo vero. E ha anche prezzi bassi e ovviamente ci sono gli sconti studenti, ovvero se fate vedere la spilletta avete lo sconto. Bene, ti utilizziamo proprio come sugar daddy. Finiti in questa situazione, ragazzi. Quindi stai dicendo che tocca di nuovo aprire il portafogli? Se non vuoi aprire le gambe, apri il portafogli, nel senso. Vabbè, se c'hai 5 minuti, possiamo anche dare io e te, però... magari paghiamo e basta. Non quello che stavo dicendo, ma va bene, comunque pago io. Never luck. Per 2 monete riesci a portarti abbastanza cibo assortito, pesce... Mi fanno davvero lo sconto per la spiletta della Zenith. Sì, con 2 monete ti porti a casa pasto abbondante per 4 persone. This is moussaka. Non fatemi venire fame, raga. Melanzane con il piano di carne. Melanzane. Sì. Però non so di che hanno. No, perché sono i pomodori, credo, le melanzane. Probabile. Dicevo. Pesce assortito, grigliato, fritto e pite, quelle ci sono ovunque, sono morbide, sono buone. Quel buon odorino di pane appena fatto, bello. E vi danno anche delle salse e dei condimenti che a quelli che non sono di qua fanno cagare, ve lo dico direttamente. Cioè, uno è fatto col nero di seppia e non nel senso, hanno fatto una salsa col nero di seppia. No, hanno preso il nero di seppia, vi hanno dato un bicchiere ed ecco la salsa. E loro chiamano questa... C'è la salsa tzatziki. C'è la salsa, sì, quella è tra quelle commestibili. La versione arcaica della salsa tzatziki. E poi la salsa yogurt, che quella sul pesce, secondo me, è una bestemmia, però... Dipende, se non l'hanno fatto troppo cremosa, secondo... No, no, io prendo le distanze. Ma loro, i loro gusti alimentari sono questi, quindi siete liberi di mandarli a cagare o meno. E si mangia in piedi, per quanto scomodo. E quanto pensiamo di rimanere? Credo il tempo di incontrare il contatto di Miffo, immagino. Esatto, chiedere magari cosa gli vogliamo chiedere. Se non altro possiamo fargli dare un'occhiata agli appunti presi da Adone. Cioè, chissà se è disposto a credere a tutto ciò. Se non fosse, possiamo portarlo al tempio. Più che altro... Addirittura. Qual erano le tue motivazioni per incontrare questa persona? Gli volevi parlare di quello che è successo alla chiesa, no? Out of game. Io? Sara? Non mi ricordo. Non ricordi più, cucciolina? No. Tecnicamente era qualcosa che riguardava quello che c'era successo alla chiesa, perché oggettivamente tutte le esperienze che abbiamo avuto con il sole, gli Elos e forse in parte quello che sta succedendo ad Adone. Allora, eravamo andati dal tipo che collezionava i giornali e... Ecco, ci aveva detto, aveva detto e ci aveva invitato. No, aspetta, ho nominato un professore che tu conoscevi probabilmente, e a seguito di questo ha nominato anche uno studente che tu conoscevi, che è quello che stiamo andando ad incontrare. Sì, che è il figlio del primo dirigente della centrale. Della centrale di Apeira. Yes. Però non ricordo per... di cui parlava. Ok. Esatto. Ok. Bravo, Ica. Grazie. Tutto questo senza appunti, cioè. Esatto. Ciao. Neanche una... Quindi tutto ciò, gli facciamo vedere l'enigma. Se lo risolvono, bomba. Secondo, cosa vogliamo sapere delle centrali, se è disposto a parlarne? Ma c'è anche la questione del cuore, in realtà. Adesso sappiamo essere Kronos, però... Esatto, cioè, quindi quello si è risolto. Giusto per mettere le cose in chiaro, davvero vogliamo dire al figlio di un ex dirigente della centrale la posizione di quello che potrebbe essere un'altra vittima delle loro centrali? Possiamo mentire, I guess, su dove abbiamo trovato quello che Adone ha ricopiato? Possiamo tranquillamente dire che è uno dei numerosi viaggi che abbiamo fatto insieme. Vero? O che magari potrebbe essere qualche info in più su questa piaga bronzea. Devi allontanarti? Un attimo. Mi devo allontanare un secondo. Vai, tranquillo. È più morto. Sì, è più morto. Cioè, secondo me... Comunque sì, vediamo un attimo come reagisce e poi da lì... Vediamo come muoverci. We play it by ear. Esatto. Sì, sinceramente dovrei riguardare le registrazioni, che non mi ricordo neanche io all'inizio come era nata l'idea di andare a parlare con questo tizio. Ma io infatti... Ma perché... Io mezzo sulla peste e mezzo su una cosa che aveva Miff, perché... Ma perché io stavo scrivendo mia madre? Non penso neanche che avessimo già aperto la sfera. Secondo me non l'avevamo ancora fatto prima. Infatti ancora prima, cioè io mi ricordo la scena di che scrive a sua madre. Appena arrivati avete aperto la sfera. A cazzo, è vero. Io sono arrivato addirittura dopo l'apertura della sfera. Era il giorno della sfera, volevamo leggere già nei precedenti perché c'era qualcosa con il tempo che non tornava. Okay. E eravamo andati al tipo che collezionava i giornali per averci più informazioni. Vero. C'era un'altra statua? C'era una roba riguardo un'altra statua che era simile, sì. Cioè che era unica, c'era anche quella? È vero, il vecchietto della capra. Infatti. C'era la statua blank. Madonna, che giocatore di merda che siamo, cioè. Perché poi è vero, cioè, mi sento così male a riguardo. Ficato non mi ricordo i nomi. Neanche io, faccio fatica. Lo ricordo anch'io che il vecchietto ci aveva detto andate a vedervi sta cosa. Immagino che sia una di quelle che ha appena descritto al centro dell'università a questo cazzo di punto. Oh, una statua famosa e c'erano sei statue enormi. No, così andiamo avanti. Te la faccio adesso la domanda perché sennò me la dimentico. Pianice, sì. C'è qualche statua che assomiglia a quella che ha visto a Lumiera Mifra? Sì. Ok. Aspetta, a Lumiera tu ne hai viste tre. Come ne ho viste tre? Quella sì. Della conoscenza? Sì. E che l'ho riconosciuta. Ok, no, quella della cappella intendo io. No. Ok, ok. Quella della cappella, se vuoi te lo spoilero, è l'unica. Cioè? È l'unica? Damn. Chissà chi cazzo era. Nomi e cognomi. Mi sto preoccupando tanto così per Eddie. Okay. Okay. So come il Brasile in questo mondo. Pieno di selvaggi. Sono gli Aztechi. Sì. Li hanno già conquistati o no. Sono andati alle colonie? No, non ancora. Sono arrivati in Nord America, ma non in Sud America. Ma non in Sud America. È casino attraversare il mare, quindi in Nord America hanno fatto prima perché devi fare meno pezzi di mare aperto. Sì, mare aperto. Ma il teletrasporto? Devi aver visto il posto prima? Devi aver costruito un altare nel posto. Ok. E campione volare mondo. C'è la spell per volare. Io non lo farei sul mare. Cioè, puoi fare quello che vuoi, però non è un buon modo per sopravvivere. E, tra l'altro, c'erano macchine che castavano delle spell usando i manapendi o mana unit. Tutte le macchine sono così. Ok, quindi possono tranquillamente creare un aereo. Perché sì. C'è la spell che genera il vento, quindi basta prendere tipo due ali, la macchina, una mana unit e vola. Il problema è atterrare. Togli la mana unit. Vabbè, plana, leggero. Con te sopra, no. Ti ricordo che il treno è il più leggero possibile ed è fatto di ghisa, ok? Io stavo pensando più di una roba alla Leonardo da Vinci. Ah, okay. Che sfrutta di legno. Cioè una macchina piccina e... Esatto. Una cosa molto grande. Anche le ali, tipo, credo... comicamente larghe. La spiegazione più... È Kid Yugi questo, lo riconosco ormai. Grande Kid Yugi. Ho visto passare un Eddie con la lavatrice. Sta. E credo che la spiegazione sia che non c'è così tanto bisogno di volare al momento, nel senso che for fun... trasporto, che te frega. Esattamente, for fun volare lo puoi fare senza un dispositivo che sposti la gente. L'idea di spostare tante persone come facevano gli aerei, come fanno gli aerei oggi, non c'è il concetto. E l'idea di spostare una persona singola è nata per motivi militari, manca la guerra, quindi per ora non c'è bisogno. Come ogni cosa. Come tante cose, sì. Però stanno facendo dei progressi per robe strane che noi non abbiamo, tipo chimica e cose del genere, non in ambito bellico, stanno andando avanti più veloce di noi. E medicina. La medicina è risolta per quanto riguarda i medikit. Circa. Sì. La chirurgia è risolta, tante branche sono completate. Completate nel senso di finché non c'è uno shift di paradigma non possiamo fare meglio di così. Mi prendo del cibo, tanto che aspettiamo Eddie. Però non è una questione di... conoscenze, è appena arrivato. Non è una questione di conoscenza, è una questione di risoluzione. Cioè, nel senso, no, faccio in tempo. La magia non è che, la magia non è che velocizza il tuo apprendere le cose. Però ti veloce, tu hai curato una malattia, però non sai cos'è quella malattia, tu l'hai curata e basta, perché hai la magia per poterlo fare. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, certo. Non ho capito cosa intendi. E infatti anche io, cioè, ho sto dubbio. Noi non sappiamo effettivamente quanto possa fare il Medikit e se quello che cura, cura veramente. Quindi no, no, sono dalla tua parte. Lo stiamo parlando? Dei limiti della medicina e della magia su Faithless. Vabbè, sì. Out of character. Cioè, che sto dicendo che la comprensione umana ha lo stesso, cioè va avanti allo stesso modo del nostro tempo circa, più o meno, perché chiaramente gli strumenti sono diversi. Il fatto è che la magia ti permette di curare anche cose che non comprendi. Nel nostro mondo no, cioè devi comprendere la cosa per poterla risolvere o curare, eccetera eccetera. No, quindi anzi probabilmente col fatto che con la medicina, con la magia puoi risolvere molti problemi anche se non sai la fonte. Probabilmente non hai neanche bisogno di studiare alcune cose, quindi magari a livello tecnico, a livello proprio di studio, la medicina è indietro. Non lo so. È un plateau. Cioè, è un po' quello che dici, ma è più plateau. Nel senso, ha fatto un picco molto più veloce che da noi e poi ha raggiunto una base dove si è fermata. Sì. Da noi ha continuato a crescere. Tra l'altro, ti consiglio un manga che sto leggendo di recente, che mi sono messo in pari, che è un isekai. Dove praticamente c'è un chirurgo che finisce in un mondo fantasy dove non esiste il concetto di medicina, perché il concetto di medicina è monopolizzato dalla razza umana che usa la magia per curare le cose, e ha il monopolio perché sono gli unici che conoscono questo genere di magia, e quindi hanno praticamente in controllo tutte le altre razze. Ed è, a parte il fatto che è disegnato da Dio, è molto figo, perché anche proprio le operazioni chirurgiche sono fatte bene, c'è proprio la descrizione medica. Che figata. Molto bello. Vai, riprendiamo. Poi il nome, se vi interessa. Ok, non è successo nulla, Eddie. Cioè, letteralmente ci siamo messi a chiacchierare di un cazzo di niente. Tutto bene, te? Sì, tutto a posto, che è arrivato mio fratello, ha consegnato la tesi, quindi sta cenando adesso, poi con okay. Dietro, felice, però sono in sessione. Bella. Vai, stavate mangiando, se non sbaglio. Sì, stavamo discutendo su effettivamente cosa fare in questo incontro. Perché certe cose si sono risolte, ok? Però ne sono nate anche delle altre. Quindi c'è l'enigma, c'è il ruolo delle centrali, anche se io penso che Deimos non sappia un cazzo. Ho questo presentimento. Dopo, al di là di ciò... Se vediamo che è propenso, si può sempre in qualche modo convincere. Pensi che potrebbe aiutare sulla mia condizione? Cioè, tipo, si guarda un attimino intorno per capire se c'è tanta gente o meno. Non lo so. Diciamo che è da tanto tempo che non ci sentiamo. Evitiamo di menzionarla, allora. I cani ferro di Arcano, arrivo. Però... Viola. non lo so come sia cambiato, non ho neanche idea di come possa essere fatto. E quindi, boh, si vedrà. Chissà se gli sto simpatica. Prima no. Non gli stavi simpatica? Vedi che Miff stringe le spalle a sé, guarda verso l'alto. Sicuramente era una posizione particolare. Che tipo... Com'è che vi siete conosciuti? Quando suo padre è morto, mi ha accompagnato nella spedizione... per la culacca che ho fatto ancora quando avevo 21 anni. Purtroppo durante la spedizione è venuto a mancare e mi ha chiesto di portare, insomma, le sue ultime parole alla sua famiglia. Quindi dopo ho viaggiato qua verso Pera. Mi sembra, per quanto una situazione tragica e di lutto, hai fatto un gesto positivo per lui e per la sua famiglia, no? Me lo ha chiesto, mi ha salvato la vita. No, intendevo più per il figlio, per questo Deimos, no? Se Vif stava mangiando qualcosa, in questo momento penso si stia soffocando. Cosa hai fatto con questo Deimos? Wow. Era un bel ragazzo. Madone. Quindi sei andata a fare il... come si dice Grim Reaper in un'espressione in italiano? Sei andata a fare... questo mietitore. Esatto. E te lo sei fatta. Nella stessa... nello stesso sito. La... 4 ore. Sì. Io ancora canto. Puoi davvero darmi la colpa? Penso però il bagno che avevano era fantastico. Veramente fantastico. Continua a mangiare. Tu neanche lui riprende a mangiare cercando di ignorare... questa gioventù. Bruciata. Oh, veramente. Dietro dal canto suo non ha problemi con questa cosa. Tipo, ci sta. Certo. Come no? C'è so niente. Sai quanto Tarado volte? Se... esatto. Certo. Tarado Sederos, proprio. Infatti. Passate un po' di tempo lì. Scusate. Potete scegliere voi se volete parlare ancora oppure se vado avanti con la mia descrizione di merda. Se volete... se Sara vuole chiedere qualcosa su qualcosa, altrimenti qualcun altro. Cosa? No, sulle statue? Ci avviciniamo alle statue mentre mangiamo? No. Anch'io in realtà sei andato dalla statua. Bene. Vi ho descritto le 6 statue. Ditemi quale vi interessa e... ma Calappio tipo quello che mi sembra essere... il più nerd degli studenti, gli chiedo che cazzo sono le statue. Ricordi che hai fatto uno prima? Sì. Bene. I sensi di ragno di Lieto sono spenti. Il suo sesto senso è completamente spento, quindi c'ha solo i suoi sensi fisici. E quindi lui vede una ragazza, normale, se non carina, minuta, ok, un po', E okay. Della tua età, tra l'altro, quindi... Okay. E sembra una nerd. Auga. C'ha il vibe da nerd. Vestita di nero. Auga. Vestita di nero come tua madre. Un po' di complesso di Edipo che in Grecia, secondo me, ci sta, comunque. E quindi tu ti approcci a lei, nel senso, è la persona che hai descritto prima. Voi tre avete un'altra sensazione che vi descrivo tra un attimo. Intanto c'è la scena di Lieto. La ragazza, madonna quanto cazzo ho scritto, porco dio. La ragazza ha gli occhi fissi, ok, cioè non sbatte gli occhi, ok, c'ha questa feature e ha le mitene. Hai presente le mitene? Quelle che indossavo io da ragazzo. Quella. Ah, uga, ok, sì. Ok, sì. Con solo le dita fuori. E noti che ha le unghie tutte rovinate. Lo noti perché si sta grattando le labbra. Ok. Sei tu che interagisci con lei, cosa le vuoi dire? Salve, sono uno studente in trasferta dalla Zenitari. Fa vedere la spilla, chiaramente. E mi saprebbe dire, gentilmente, che cosa rappresentano queste statue? Non sono ferratissimo. Noti che si strappa una pellicina dal pollice e la ingoia. Sono le 6 divinità di Apeira. E quali sarebbero? Ah, quello nudo col tridente è Zagon. Quello okay. Con l'aureola è... Yelos. La tipa okay. con le corna è Vama, anche se questa sua versione si chiama in un altro modo. E come si chiama in questa versione? Afros, è il nome classico in, okay. In lingua Kayes. E quello con l'armatura è Heriots. La tipa con il libro è Roina. E l'ultima statua non si sa. Come scusa? Non si sa? Si sa. Ci sono delle teorie riguardo o è proprio... Beh, sono non sei statue, cinque divinità e un'altra persona, quindi sarà un'altra divinità. E lei come si chiama, scusi? Non ti ho chiesto. Sono Ira. Ira? Ira. Ok. Ti tende la mano. Gliela stringo. Noti che sta sanguinando dal punto dove si è strappata una pellicina. Se è meglio se vai a vedere un medikit. Indico la pellicina. Ah sì, più tardi. Ti stringe la mano in maniera abbastanza vigorosa per essere una persona così piccola. Ok. Si tira giù il cappuccio. Ha un cappuccio nero come tutti i fottutissimi necromanti, nel caso non ti fosse chiaro che cos'è. E noti che ha i capelli castani con i riflessi rossi, ma è piena di capelli bianchi. E i capelli sono un disastro, cioè non si è mai pettinata in vita sua sta ragazza. Le lascio l'indirizzo della chiesa dove stavamo, I guess. Se ti dovesse servire qualcosa di magia ontica, mi trovi qua. Gli lascio un foglietto? Gli lascio un foglietto. Lo piega con cura e lo mette in una delle grandi tasche che ha. E gli hai detto il tuo nome? Sì. Ok. Lieto? Sì. Sì, credo lieto che... Lieto di conoscerci. Credo che mi serva qualcosa da te. Che cosa? Ora se è un bacile di pietra, sono pronto. Se ti serve una tazza dei cereali, è pronto anche quella. Curioso senso dell'umorismo, voi del nord. Non è una battuta, ma andiamo avanti. Noti che si sta mordendo il labbro di sotto così forte che sta sanguinando anche da lì. E aggiunge... Sì, credo che ti farò visita nelle prossime sere. Ok. Si allontana. Oh. Senti, hai presente quel rumore, quel fruscio che fa quando estrai una lama? Ok? C'è un suono distinto, no? Del woof. Sì. Senti questo suono qua, non vedi niente, perché si sta allontanando, ok? E la sua figura copre la parte davanti al suo corpo, quindi senti questo suono e basta. Gli altri ti stanno guardando malissimo, cioè te lo dico io, non glielo chiedo nemmeno a loro. Prego. E lieto ciao. È abbastanza convinto di aver trovato la donna della sua vita. Dio mio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Aspetta di conoscerla. Okay. E faccio sapere agli altri che queste sono le divinità principali di Atea. Quali sono? E poi c'è il mistero dell'ultima che non sanno che cazzo sia, mi sembrano abbastanza svogliati, non ho studiato a sufficienza. L'ultima qual era quella visivamente che quella che non era riconosciuta? C'ha un bast- con legno, legno okay. E c'ha un cerchietto. Ed è androgeno. Non ho ricordi di aver visto una figura del genere da qualsiasi... Cioè, non di conoscenza non penso proprio, a livello proprio visivo. No, però la storia della sesta statua è famosa. Cioè, è quasi un modo di dire il fatto che la sesta statua appartenga a non si sa chi. Dimenticato come la sesta statua di dell'Auster. Ma questa statua qua sta solo qui. Solo l'Auster, non c'è, non ci sono altre rappresentazioni del genere in tutta Peiro. Sembrerebbe di no. cioè se ci sono non le hanno ancora trovate, conta che ci sono gli scavi archeologici un po' in tutta la regione, sì. Quindi sotto Dio solo sa cosa c'è. Tra l'altro c'è stata una fase del più ad est di Achaies in cui le città le costruivano sottoterra, quindi ce n'hanno da scavare quanto vogliono. E però tutte le divinità attuali sono quelle moderne, quindi sì. Cioè, sono tutti tempi, cioè anche la anche queste qua dovrebbero essere rappresentazioni moderne, quindi se c'è stato un damnatio memoria è recente comunque. Esatto. Non si trova traccia di questa, vabbè, questo lo dico per gli accademici di voi, non ci sono tracce di questa figura da nessuna parte, però soprattutto sui manuali di storia e di religione viene invece detto che è famigerata la questo caso della statua che non si sa chi sia, che lo portano come esempio del fatto che le divinità probabilmente hanno dei cicli in cui nascono, raggiungono il loro massimo splendore, quindi arrivano tantissima gente e poi lentamente muoiono. Io so quando è stata fondata la la Zenith Aura. Allora, è una storia strana, nel senso che la prima, il primo edificio che la che si chiamava l'Accademia è di età ellenica, quindi ha 2000 anni, 4, 5 o 6 secoli prima della nascita del Dio della Santa Chiesa. Siamo nel 1600 dalla morte del Dio della Santa Chiesa. E questa accademia era talmente famosa che sulle sue ceneri ce ne hanno ricostruite 40. Questa che vedete oggi è l'ultima. Le statue sono lì dall'inizio, probabilmente, poi vatti a fidare dei resoconti. È probabile che le statue siano state danneggiate, distrutte e ricostruite il più somiglianti possibile alle originali. Il tempio più antico attualmente ancora utilizzato da Peira? Quanto vale? Ottima domanda. Il tempio di Hielos è molto antico. Non so se ti ricordi che c'era una parte del tempio che era antichissima. Forse sì. Risale a quella esterna che è moderna. Esattamente. La parte antica era più o meno la stessa epoca. Forse un pochino più recente il tempio di Hielos. E sì, il tempio di Hielos. Il tempio di Zagon è stato distrutto e ricostruito 2-3 volte. Quindi in realtà è nuovo quello che c'è adesso. Nuovo. 300 anni ci avrà, da quando ha iniziato a cadere la Santa Chiesa, quindi mi sembra 300 anni dopo, se vuoi andiamo a controllare. Il Tempio di Vama è per lo più un giardino, quindi è difficile dargli un'età, però anche quello sicuramente l'edificio principale non è quello originale, e gli altri templi sono tutti più moderni, perché il Tempio della Santa Chiesa è modernissimo, in paragone, tendo a dire. Cioè ha 6 secoli, mentre questi hanno dei millenni. Però quello di Hielos posso associare a livello di tempo di costruzione più o meno quello delle cioè non delle statue attuali, ma della fondazione della... Sì. Può essere più o meno lo stesso periodo? Sì, sì, sì. Con uno scarto massimo di 1 o 2 secoli. Ok, tutto questo qua è un ragionamento mio perché Nibel è troppo stupido. Okay, perfetto. Ok. Finita in realtà comunque ci pensa un pochino effettivamente, e dico agli altri, se le statue sono antiche come il tempio di Hielos, magari andando a ritroso possiamo vedere se c'è stata qualche demolizione di qualche tempio, di qualche documento storico. Non pretendo che noi delle persone a caso vadano a risolvere un problema che la città si porta avanti da chissà quanti secoli, però magari potrebbe servirvi a voi, non so, a me non importa particolarmente di divinità e questo genere di cose qui, però... Potevamo saperlo prima e chiederlo a Cronos. Potevamo chiedere un sacco di cose a Cronos, però non a quanto pare per lui abbiamo fatto solo scelte sbagliate. Le avete chieste tutte. Probabilmente sì, voce che arriva dall'etere. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di fargli tutte le domande che volevamo. È vero. Sembrava ce l'ha tolto. Sì. È vero, anche questo. Mi deve del tempo questo uomo. Va bene, certo. Va. Magari chi ci studia sa forse qualcosa. E quella che ci interessava immagino fosse la statua di Vama in realtà, vero? La statua di Vama corrisponderebbe alla divinità che prega il tizio che avete visto nel futuro. Sì. Tecnicamente. Sì. E mi rifai una descrizione della... Sì. Quella statua. In realtà è una donna abbastanza bellissima, cioè con le figure... col corpo perfetto secondo i canoni di bellezza Caies. L'unica feature strana che ha sono le corna, cioè ha delle corna di capra sulla testa, e è l'unica disarmata, credo, perché comunque una c'ha un libro in mano, questa c'ha proprio il braccio alzato. Ok. Quanti gradi? No, più romano che non nazista. Ok. Se ma vicino c'è scritto tipo qualcosa sulla statua, c'è una delle iscrizioni. Sono targhette. Le statue poggiano su un piedistallo. Il piedistallo ha al lato davanti verso la fontana, quindi in realtà tu vedi le statue, cioè vedi il piedistallo delle statue dall'altro lato, mentre non vedi quello dal tuo perché c'è la statua davanti. Okay. Il piedistallo c'ha un'iscrizione con i simboli della lingua antica, e tradotto non sono i nomi della divinità. Ok. Nibel riesce a leggerli. Ma anche esatto. Tu. Okay. Sono... Sei pronto? Sole, amore, mare, morte, sapere, e l'ultima parola, che corrisponde a quella ignota, è una parola ambigua che nella lingua di Acaies può voler dire tre cose diverse, che sono raccolto, tempo e stagione. Anche se è pronto. Ci perseguita, porca. In realtà anche la parola di altre divinità ha più significati. Roina ha logos come parola, che i più saggi di voi sapranno vuol dire un miliardo di cose, vuol dire logica, sapere, parola, vuol dire un sacco di cose. È ampiamente assunto che in questo contesto rappresenti la conoscenza, il sapere. Anche la parola di Herioth, ve l'ha detto Kari, è morte, però può voler dire un altro paio di cose, cioè è anche la fine, è anche concetto più astratto della morte. Mare è mare. Okay. Sì. Mare è mare. Sì. Sole è sole. Amore è filia, quindi è amore, però non si capisce se in senso romantico, amicizia... È amore generico, sì. Diciamo. All'inglese, diciamo. Esatto. Okay. Che cane gli inglesi. Veramente. Non è un puzzle, questo. Io no, vorrei... No. Però il fatto che ci siano tutti gli indizi del puzzle in una delle statue mi stava facendo riflettere. E niente. Va bene. Ok. Sono tutte e tre definizioni ricollegabili alla stessa divinità che conosciamo, no? Sì. Sono letteralmente le tre cose che avevamo discusso nella nostra domanda. Quindi quello sarebbe la rappresentazione del suo aspetto, comunque. Sembrerebbe una rimodernizzazione. Sì. Che strano, non era così. Era così, Master. Cosa? Quando si è presentato Mif. Assolutamente no. Infatti. Te la ricordi la descrizione? Vagamente. O il disegno del cibi, se vuoi. Vaga? E... Te lo rimando, mi ci vuole un minuto. Interagite tra di voi. Esatto. Da bravi player. Adoni, vieni presto. Questo sembra interessante. E lì con voi, Adone, ci sono. Vedi, no. Addita tipo la statua misteriosa. Arma anche qui. Beh, Adone non credo sappia nulla di più di questa statua misteriosa, appunto. Se è la statua misteriosa che tutti non sanno chi è, cioè. No, la traduzione è la solita cosa. La targhetta. nel messaggio. Questo termine qua vuol dire stagioni, tempo e un'altra cosa che non mi ricordo. Raccolto. Sono tutti e tre termini associabili a... che cazzo si chiama? Ama? Arva. Arva. Perché Arva. Hai detto mamma? Ma io non ce la faccio. Mamma è la dea dell'amore. Ah, ecco. Sono tutti e tre termini associabili a... ad Arva. Quindi questa potrebbe essere una rappresentazione del suo aspetto, o perlomeno... siccome le statue probabilmente non sono originali. Questa non è una... Arva, giusto? Diciamo che... Cioè... Era un po' io di... non leggo nella mente di Mif, quindi finché non dice qualcosa per me questo è Arva. cioè, Mif fa spallucce di nuovo e fa... A me si è presentato in una maniera un po' più barbarica. Che non assomigliava a questa statua, e indica la statua. No, non per niente. Ok. Che... Scusate, io adesso farò un discorso che spero abbia senso con Adone, però Adone dice... E si sa che le divinità vengono rappresentate in maniere diverse, in momenti diversi. Magari quando sono state fatte questa statua è stata decisa di essere rappresentata così. Sì, ma super possibile. Fatto sta che non è più così, e ci sta che non, che gli altri non sappiano chi sia e cosa faccia. E forse è meglio così. Forse sì. Però Arva, se non ricordo male, aveva detto che... Cioè, Cronos aveva detto che le divinità moderne lui non le conosceva, comunque avevano un altro nome. Alcune erano venute dopo di lui, aveva detto. Sono arrivate dopo di lui. Sì. Quindi chiaramente queste qua sono comunque delle rappresentazioni moderne che... riprendevano in parte anche l'esistenza di Arva. Sì. Beh, alla fine le divinità, cosa avete detto che sono? Tipo delle personificazioni di concetti? Sì. Quindi non è detto che ci fossero letteralmente quella persona lì. Questa è un po' la visione. Però c'era qualcun altro che rappresentava l'amore, per dire. Sì, esatto. Sì, essenzialmente quello. Ovviamente considerando che fino a poco tempo fa, dico io stesso pensavo che le divinità non esistessero, sì, erano infine oggetti, diciamo, tramiti che le persone veneravano per sentirsi meglio in un certo senso con se stesse. Dovevano avere un vero scopo, una vera funzione, una vera presenza. Però, a quanto pare, non è così. God forbid a man has hobbies. Veramente. God forbid a man is ateo. A un certo punto le persone sono stancate di chiedere l'aiuto e se lo sono presi con le loro mani. E stiamo vedendo quanto la cosa stia andando bene per noi. Da quello che diceva Kronos, l'alternativa era peggio. Già, siamo tornati indietro nel tempo per qualcosa. Ma nulla mi impedirà di vedere quale fosse l'alternativa. Sì. Già. Però... L'alternativa era che c'erano le donne al comando e lui non lo poteva tollerare. Vabbè, tornati indietro solo per quello. Mi devo legare i capelli, arrivo subito. Così, in realtà se n'è andato solamente perché ha scoperto che le donne potevano parlare e si è infilato in una comunità di soli uomini eremiti. Esatto. La Tiria. Esatto. Aspetta di vedere chi ha il comando della centrale di Apeira, Cronos. Vero. Ok. In realtà parlate per un sacco di tempo. Fate in tempo anche a digerire il buon cibo che avete mangiato. Strano, perché tendenzialmente siete dell'idea che il cibo migliore venga da casa vostra e tutto il resto sia una merda. Non è vero, Mif non la pensa così, però per gli altri mi piace pensare di sì. e vedete arrivare due ragazzi, uno dei quali è familiare a un paio di voi, l'altro dei quali è familiare a uno solo di voi, e quello familiare a più di voi vi nota, vi fa un cenno con la mano, ed è il vostro contatto, che io sono pronto a scommetterci, non vi ricordate come si chiama? Assolutamente no. Giona. Franco Pappataccio, aspetta, vado a cercare. Non sono dimenticato il momento in cui è uscito dalla sua bocca il nome. Dovrebbe essere Giona. Si chiama Iona, Fuchino. Iona! Bravissima, Yves. Fuchino. Allora, Iona è un bravo fante. L'altro ragazzo con lui, ve lo devo descrivere perché è la prima volta che compare in campagna, quindi è necessario fare una descrizione. Ho paura dal tuo tono. Ho paura anche io. Allora, indossa abiti eleganti da universitario, praticamente vestito quasi come Adone. Però è ancora uno studente, quindi porta sul petto la spilla che non è grande come quella di Lieto, però è una spilletta che si nota con il monogramma della scuola di magia ZA. Tratti facciali... Come? Zenithauster, esattamente. Iona è Ataraxia? Iona Potacus, Deimos è Ataraxia. Che è okay. Questo qua che ti sto descrivendo per la prima volta. Ok. Deimos Ataraxia, è inutile che lo presento perché l'abbiamo appena detto. Ha i tratti tipici di Achaias, quindi un naso importante, un colore della pelle più olivastro che non bianco. Non è un altissimo, cioè 1,75 m, però da sotto i vestiti si vede che è ben definito. E le proporzioni facciali sono molto importanti, nel senso che chiunque di voi abbia un interesse per la categoria direbbe che è un bel uomo, bel ragazzo. È giovane, ha una ventina d'anni, 22 per la precisione, e niente, porta con sé una borsa, praticamente ha una cinghia sola attaccata alla borsa, che a giudicare dalla forma è piena di libri. È Iona a salutarvi e dice: ah ok, siete di più dell'altra volta. Sì, erano gli altri di cui ti avevamo accennato. Ok, e Deimos, loro sono quelli di cui ti ho parlato. Deimos ti sta guardando, Mif. Adone giustamente buone maniere e allora allunga un attimo la mano destra normale e dice: piacere, Adone. Spezzi l'incantesimo e lui si riprende e ti guarda e dice: ah, piacere, Deimos. Mano uno e stringo una mano anche all'altro, ovviamente, perché sì, sì, che è la prima volta che lo vedi. Fate il giro di presentazioni. Iona è quasi spazientito e dice: sì, però non stiamo a parlare nel piazzale con le statue che ci guardano. Andiamo, c'è l'aula apposta per queste cose. Bene, fa strada. Sì, nel dipartimento di magia naturale. Beh, Adone non ha questa reazione, però sentendo magia naturale. Sei a cambia casa. La canzone, vale, cambia la canzone. Corro, veloce, più che posso. Non sono abbastanza veloce. Non gli abbiamo grazie. Fatto dire la parolaccia. E appunto, sentendo magia naturale, vedete che Adone si ripiglia un attimo e cerca di stare un po' avanti. Non troppo, però. Vedete, okay. Volete farmi tutte le vostre reazioni o andiamo? Cioè, voi non avete reazioni. Nibel sta stringendo i denti per tutto il tragitto. Ok. C'è Mif che magari, se Nibel è rimasto indietro, Mif è al suo fianco ed è estremamente silenziosa, no? Tipo spiraling. Addirittura. Sì, io sono... faccio da coda, a sto giro faccio da coda. Ok. entrate nel dipartimento di magia naturale e vi travolge l'odore di sottobosco fresco. Ehi, Eddy, è lo stesso odore della camera di Isaac. Voi ci tenevo a dire sta cagata, scusa. E via tutta la pelle. Sui lati ci sono dei vasi che vorrei tantissimo dire che sono vasi da fiori, ma sono vasi da funghi. Cioè crescono dei funghi molto grandi, molto belli. Molto grandi, molto belli. Penso a una certa donna che conosco. Di ogni tipo, sono veramente... Alcuni hanno pure la targhetta con scritto il nome latino, il nome scientifico, dai, speriamo sta cazzata, della specie. E all'entrata c'è, come usa, c'è un atrio con una statua al centro. La statua rappresenta... una persona di genere indefinito, mi viene da dire, dalla quale crescono funghi su tutto il corpo. È una statua di marmo. In effetti. Più Chernobog di persona. Ora vi mando l'immagine perché so che non tutti sono a late stage come me. Chernobog di fantasia o... No, di SMT. Down. Ah, quello, ok. Sì. Meno ridicolo il cappello, però di sesso indefinito e con una quantità notevole di funghi che gli crescono addosso. E... c'ha una targhetta con scritto Meiklon. E cala da Meiklon e esplode tutto. Billions dead. E all'entrata, a fianco alla statua, passa una donna. Dovrei avere la descrizione dettagliata, se mi date un secondo. Descrivimela tutto. Esatto. Allora, tutti noi ci gireremo a guardarla. È una signora, dall'aspetto sembra una cinquantenne. La pelle è molto tirata, è molto magra. Capelli grigi, più che bianchi, bianchi più sul grigio. Indossa dei guanti lunghissimi, le arrivano fin qua. Neri con tante decorazioni colorate, ha una spilla della Zenith Auster, lunghi vestiti e i motivi sul suo, come si dice, sulla sua, mi viene palandrana, qual è il termine, sul suo scialle, ricordano vagamente i temi di questo dipartimento, quindi funghi, radici e cose del genere. Sono robe estetiche, non è che hanno nessuna funzione. La donna, vedendovi arrivare, saluta Deimos, e Deimos soltanto, chiamandolo per nome, proprio per questa interaction che ora devo fare rullandoli entrambi, è un po' che non lo faccio. Buongiorno Deimos, vedo che sei in compagnia di altra gente, non distrarti troppo dai tuoi studi. Ah, buongiorno professoressa, sì, è un progetto di ricerca. Oggi mi metto subito a fare le cose del corso. Non si preoccupi. Fa un cenno la donna. E se voi non fate niente, si defila. Sì, lasciamola defilare. Era familiare, cioè c'è qualcosa degno di nota. Volevo chiedere la stessa cosa. Allora, Adone mi rolla un D10 di arcano. E Nibel mi rolla un D10 di storia. D10 di storia. Che sta in da. Cultura zero Bazoinks 6. Ti sembra di averla già vista, ma non ricordi dove. Su qualche giornale, realisticamente. Non è Alexandra Mucros. È proprio Alexandra, no, Mucros. Ok. Te la immaginavi? Perché so che ha più di 70 anni. Sì, se li porta da Dio. Cioè, la persona che vedi davanti è uguale, se non addirittura più giovane, più giovanile, della foto che tu hai visto di lei 20 anni fa, quando sul giornale avevi letto che sarebbe diventata la nuova direttrice. Ora dico 20 anni per dire un numero, chiaramente non è 20 anni fa, hai capito cosa voglio dire? Sì. E poi... Ma lei, da quel che so, In realtà ce l'ho scritto nel background, dovrei saperlo. Non ce l'ho scritto. Lei fa anche da rettrice del... Beh, chiaramente fa da professoressa, ma fa anche da rettrice dell'università. Ok. dovresti chiederlo a qualcuno se non lo sai. Dopo. Ok, vabbè, ora poi appena se ne va, se non glielo vuoi chiedere direttamente, lo puoi chiedere a uno dei due NPC. No, vabbè, c'ho di fianco me e Mif, che comunque siamo un pochino più lontani, e dico... Però dovrebbe essere Alexandra Mukelos, la direttrice della centrale. C'è Mif che alza le sopracciglia e fa, davvero? Non l'ho mai vista. Sì. Sentendo l'ho il vista... nome, dobbiamo mi kickstart qualcosa? Ma secondo me non l'hai mai sentito sto nome. Ma neanche secondo me, a posto. Scusate, andate avanti. L'ho vista sui giornali, ha le mani in pasta un po' dappertutto, solo che sembra più giovane di me, ma dovrebbe avere tipo 70 anni. Anzi, mi sembra più giovane dell'ultima volta che l'ho vista, credo di averla vista tipo al minimo 10 anni fa. Questa volta Biff si gira totalmente a guardarti, tipo come con l'espressione di una persona che ti dice cosa? Ma stai scherzando? Ciao. Qualche bagaggio magico. Chissà. Beh, non mi stupirebbe se stesse ciucciando qualcosa da qualcuno. Magari è un vampiro. Grande Adone. Adone che va così, però c'è. Adone fuso. Per ridere chiaramente. Roar. Adone. Biff ride, cioè Biff ride, è divertita, cioè dopo si contiene, però hai fatto a sorridere. Oh dai, che bello. Oh dai, almeno un po' di gioia, che tanto domani moriamo tutti. Ok. Se non avete altro da dire, raggiungete la stanza, l'aula libera. Io non so quanto sia permesso, ma mi metto a fumare. Puoi fare quello che vuoi, fai proprio fumare nel chill. Quanto cazzo era basato il 1600? Sì, l'unica cosa è che ci sono alcuni luoghi dove fumare è sconsigliato all'interno della scuola di magia, perché potresti innescare robe strane. Tipo, nel dipartimento di alchimia è meglio non farlo. E... Ma comunque costiglio, non è una regola. No, no, infatti, cioè, alla fine qualcuno se muore diventa tutta carne da macello per quelli di necromanzia, sono tutti contenti. Dicevo. Sì, sì, sì. E... Da un dipartimento all'altro, sì, proprio, sì, sì, un chilometro zero. Cioè, però c'è una relazione del genere tra ogni dipartimento, dicevo. L'aula che avete preso ha un grosso bancone, non è enorme, cioè... due camere da letto. Mi piace come unità di misura la camera da letto, la cosa più americana che abbia pensato. E c'è un bancone con delle tovaglie sopra, tonde, di quelle molto cucite. Ricamate? Sì, grazie. Sì, esatto, molto dettagliate. Sì. Da un l'uncinetto quell'altro. Ok. A maglia proprio. E andiamo avanti. E c'è una teiera, una teapot, sopra una di questi centrini, diciamo. E ci sono abbastanza sedie per tutti. Deimos e Iona si siedono vicini fra loro. E voi vi potete mettere come cazzo vi pare, ci sono abbastanza posti per tutti. Anzi, ne avanzano di sedie. Mif, per convenienza, si mette vicino ad Adone. Perché se okay. dopo... ci dovrà mostrare il taccuino, almeno è a fianco ad Adone. Sì, sì, sì. Anche lì prendo la sedia, la sposto leggermente più indietro rispetto al tavolo e mi tengo esterno dal cerchio. Ok. Lieto prende una sedia, la gira al contrario e fa la Riker Maneuver. A fianco a Adone, a Mif o lontano da te due o vicino a uno degli altri due? Vicino a uno degli altri due e al Alex Ciuccio. Certo, certo, mi piace questa disposizione. Ok, ce li abbiamo. Appoggio proprio le braccia sullo schienale, tipo, e aspetto. Ok. Deimos, che si sente osservato, vi guarda uno per uno e poi dice: mi sembra di capire che dovevate chiedermi qualcosa. Sì. Done. Hai finito, Lieto? No, c'ho una cosa in gola io. Adone tira fuori che si mette una mano sulla fronte e dice: abbiamo fatto delle scoperte, diciamo, in questi giorni, e appunto apre il taccuino e mostra: abbiamo trovato queste incisioni sotto il tempio di... Non dovevi dirlo, Autoscale. Non dovevi dirlo. E adesso you go with it. Ormai è un colpo di tosse molto forte da parte di Lieto. Sotto un tempio. E vogliamo capire se magari voi riuscite a decifrare cosa significano questi simboli. Noi pensiamo che sia una specie di puzzle, probabilmente. Deimos guarda Iona e gli fa: mi avevi detto questo? Iona guarda lui, poi guarda voi e fa: non mi avevate detto questo? Le cose si sono evolute nel corso di... Che cosa ti avevamo detto? Ricordacelo un attimo. Volevate sapere di più su la piaga bronzea, su la magia? Vero. E avevate trovato qualcosa di paranormale che non sapevate spiegare, avevate bisogno di un esperto, e lui è un esperto. Sì, di magia naturale, però non di puzzle. Adone tira fuori via il taccuino. Dobbiamo tornarci in un secondo momento su questa cosa. E quindi cosa ci sei dire da Peonzio? Con la professoressa sto concludendo una tesi riguardo forme di magia medica e altre applicazioni che utilizzano la magia naturale. La mia idea è di specializzarmi e ricreare le... E guarda Mif! E ricreare la magia sciamanica della Gulakka, utilizzando però le conoscenze moderne di magia e non le loro stronzate cabalistiche. È un progetto sicuramente interessante. E a che tipo di conclusione siete arrivati? Che la professoressa? Non c'è nulla di legato alla religione o ai misteri, è solo una forma molto raffinata di taumaturgia che si basa sulla magia naturale e in misura minore sulla stregoneria. Siete riusciti a dimostrare una cosa simile? Siamo riusciti a fare dei piccoli passi avanti. Le ricerche di mio padre avevano dimostrato chiaramente cosa erano in grado di fare nella Gulakka, e quindi siamo partiti più o meno da lì. Quanto sai delle ricerche di tuo padre, Deimos? Ha lasciato numerosi libri a casa, quindi a parte l'ultimo viaggio, tutto. Vedi, Mif che tipo incrocia le mani, no? Come per... come se stesse pensando a cosa dire o meno. Beh, cioè, sicuramente hai fatto dei progressi giganteschi già a dare una spiegazione, un'origine, un qualcosa. Però se c'era una cosa che gli sciamani della Gulakka avevano centrato in pieno, era l'esistenza di alcune presenze. Una di queste ha ucciso tuo padre, quindi sono abbastanza sicura. Lo vedi che sorride e aggiunge: a chi non sa cosa sta facendo, spesso la magia raffinata assomiglia ad apoteosi. Un'apoteosi che ha un corpo, ha uno scopo e un pensiero. Come la metà degli homunculus che creano ad alchimia. No, non si trattava di un homunculo. Immagino tu abbia delle evidenze scientifiche di questo fatto. E non solo la tua storia. Purtroppo solo ricordi, però quello che ti ha mostrato il mio collega Adone, che è il coso, l'enigma, può riportarvi a una presenza un pochino più particolare. Non esattamente magica. Mi spiace, ma non credo a queste cose. Sono abbastanza sicuro che ogni superstizione possa essere riportata a qualcosa di più reale. Ma comunque sorride in modo sbilenco. Comunque siamo qua per chiedere anche altre cose, no? Sì, no, ma questo era per farvi un incipit di quello che sto facendo io. Sulla piaga bronzea, quello che abbiamo scoperto, la professoressa ha occasione di controllare cadaveri che provengono dall'impero in condizioni asettiche estremamente controllate. Quindi abbiamo avuto a che fare con dei cadaveri affetti dalla piaga. Non posso rivelarvi cosa abbiamo scoperto, però vi assicuro che non c'è nulla di religioso. Non puoi per ordini superiori oppure... Sì, non è un contratto il mio. Ok. È solo il fatto che la ricerca è parziale, quindi divulgare le informazioni è una forma di info hazard e potrebbe creare più problemi di quanti ne risolverebbe al momento. Sia una cura. Cura è una parola grossa. Al momento stiamo cercando di capire come funziona. In un secondo momento passeremo a limitarla e poi dopo a curarla. Se la nostra di cosa teoria... avresti bisogno? Di tempo e campioni su cui fare esperimenti. Campioni vivi? Esatto. Non abbiamo nessun malato vivo, perché l'impero impedisce di interagirvi per motivi di sicurezza, cioè lo posso anche capire, però questo sta rallentando la sperimentazione. Mi metto dietro con la sedia, incrocio le mani e non aggiungo nient'altro. Come mai siete interessati alla piaga? Diciamo che... un interesse puramente accademico. Sì, interesse accademico. E il fatto che ci stia anche magari bussando la porta è comunque un pericolo. Vero. Pensavo venisse da più nord dell'impero. Viaggio. Lo sai bene. Vero. Indica Lieto. Indica la spilla di Lieto e dice: vuoi farmi credere che nessuno che conosce è stato infettato? Un certo numero di persone che conosco, glissa lo sguardo su Adone, sono state infettate. Eppure sei qua per interesse accademico. Principalmente sì. Sì, direi di sì. Singolare. Parlando francamente, per quanto questo sia il mio interesse accademico, non nego che c'è anche da parte mia un certo interesse affettivo. Immagino che abbiate percepito il mio accento, sicuramente non sono di queste parti. Volevo sapere se magari siete riusciti a capire come si trasmette questa piaga bronzea. Anche perché se avete modo di studiare questi corpi, vuol dire che sapete come si trasmette almeno. Abbiamo una teoria diversa da quella che fornisce ufficialmente l'impero, però appunto è una teoria. E quale sarebbe la teoria? Se potete condividerla con noi, ovviamente. Ovviamente. Iona ci tiene a sottolineare che lui non sa un cazzo. Io faccio biomanzia nella vita, io sono qua perché lo conosco, perché siamo amici e non ho idea di cosa state parlando. Biocosa? Hai presente necromanzia? Il contrario. Che merda. Praticamente non crediamo sia una malattia. Interessante. Grazie, Gazzella. È un'unità autoreplicante. Ok. Ok. Una specie di fungo, potremmo dire, per pensarla in qualcosa di simile. È semplicemente qualcosa. Perché Adore non sa cosa sono i virus. Sì, non esistono. Non esistono. Non l'hanno ancora scoperti. Come posso spiegartelo in un altro modo? Hai presente che se hai dell'acqua infetta e la getti in un fiume, tutto il fiume si infetta? Certo. Notte, mamma. La piaga ha un principio del genere. Solo che invece di applicarsi da liquido a liquido, si applica da organismo a organismo. In che maniera? Posso dire una cosa? E che cazzo di differenza c'è da una malattia? Perdonami. La malattia, per quanto ne sappiamo, ne esistono di due tipi. Magica, quindi si trasmette la malattia magica, infetta una persona, quindi un veleno. E il morbo, le piaghe normali, diciamo. E le piaghe normali tendenzialmente non infettano organismi diversi. Se tu hai un cane, non gli attacchi il raffreddore. Quindi avete la conferma che la piaga ha effetti anche su altri, su creature come animali? Su quasi tutti gli esseri viventi. La maggior parte delle piante sono immuni, sebbene ci siano alcune piante marine principalmente che ne subiscono gli effetti. Altri organismi interagiscono in modo bizzarro. Avete capito da dove è partita? No, ma considerando che si passa da organismo a un organismo, la fonte potrebbe essere qualunque cosa viva. Inoltre il risultato tecnicamente non è qualcosa di vivo. Non si può usare la necromanzia sulle creature che escono fuori quando esplodono. Non credo di potervi rivelare altro, anzi gradirei che rimanesse fra di noi quello che vi ho detto ora. Certo. Sarà di massima privacy, sia per preservare te che noi. Ok, out of game, Sand. Cioè, out of game, sto pensando, cosa cazzo possiamo fare? Cioè, nel senso, perché mandare al macello Adune non mi sembra la cosa giusta, nel senso, cioè, noi tranquillamente possiamo dire, guarda, noi abbiamo uno specimen, tra virgolette, vivo, ok? Però è anche vero che dopo verrà, cioè, avremo le attenzioni della capo centrale, ok? Ed è un problema. Potrebbe essere anche un'occasione. Sì, potrebbe, cioè, ci sono pro e contro. Rivelare quello che abbiamo scoperto riguardo le divinità mi sembra comunque una cagata, considerando che c'è sempre il capo centrale di mezzo. E non credo che possiamo chiedergli nient'altro senza rivelare le nostre carte personalmente, perché non possiamo chiedergli: ehi, ma sai di persone che sono trasformate per metà, di qualcuno che è sopravvissuto? Soprattutto, Mif, quanto si fida? Bella domanda. Detto questo, cioè, per adone, o torniamo sul puzzle, diciamo, sì, guardate, ignorate tutto quello che abbiamo detto. Potete aiutarci su questo? E no. Dopo... Io mi alzo in piedi. E metto a posto il giubbottino, metto a posto il cappellino. E dico: conosci la famiglia Corafi? La famiglia Corafi, hai sentito parlare? Non mi dice nulla, perché? Faccio qualche passo, mi avvicino a... verso di lui e la famiglia Pandoka. Cognome comune, suppongo. La famiglia Bjornsson. Solo perché conosco una standout non significa che sia familiare con la gente del nord. Sì, comprensibile. Suppongo che neanche tuo padre le conoscesse. Quale dei due? Chissà quante altre famiglie sono state influenzate dal suo lavoro e lui neanche lo sapeva. Non credere che la mia ne sia esente. Tolgo il guanto, lo sbatto sul tavolo. Faccio vedere la mano. Credo di aver capito. Mio padre era uno spirito libero. Non abbiamo mai capito cosa cazzo gli girasse per la testa. Sappiamo solo che il giorno che è andato in pensione ha deciso di suicidarsi. A parte questo, non ha mai parlato del suo lavoro e non abbiamo la più pallida idea di cosa abbia mai fatto. Ho seguito un percorso diverso dal suo. Lui era un militare. Io aborro ogni forma di controllo di quel genere. E sono anch'io dell'idea che i segreti militari e cose del genere siano sbagliate. Solo nelle fasi di ricerca sono necessari per evitare problemi. Mi dispiace, ma la centrale non è solo per uso militare, è anche per uso civile. Non ho idea di cosa succeda nella centrale, le mie ricerche esulano completamente da lì. Quello che fa Alexandra non è di mia competenza. Non ti parla? Di certo non. Giusto. Di quello. Magari un giorno prenderò il suo posto come direttore. A quel punto cercherò di fare le cose in modo più etico, però per il momento non ho idea di cosa sia il suo lavoro. Lo spero per te, ragazzo. Tolgo la mano dal tavolo e in mano c'ho un manapenny. Stringo dalla mano e me lo metto in tasca e mi rimetto il guanto. A lui non fa così tanta paura. Non so agli altri tre. Adone da quando si è alzato, si è sistemato, Nibel lo stava continuando a fissare. In questi ultimi momenti era pronto a saltare, cioè era un attimo pronto a fermarlo. La pistola di Lieto è uscita dalla fondina. Mamma mia, ok, appena vediamo che io, Adone, appena vede che Nibel si torna indietro, lascia un sospiro che non sapeva di star trattenendo. Minchia, anche Nif. Mi abbasso il cappello, faccio di nuovo i passi, mi siedo di nuovo sulla sedia. Non ho nient'altro da dire. l'interazione è stata un'interazione. Quanto riguarda lieto, tipo... A dire il vero, credo che per il momento le nostre domande si fermano qua. Magari appunto questi appunti che vi ho mostrato non sono di vostra competenza, ma magari conoscete qualche archeologo, magari qualche appassionato che potrebbe... Ci guardano poter... quando dice archeologo. Esiste come termine, sì, sì, però sì, non sì. È accademia. Ma... No, no, no, sì, è come? Okay. Ah, archeologo... Si guardano perché dicono... Sì, la conosciamo. Appunto, se conoscete qualcuno sarebbe... Se vi saremmo grati se, vi, se ci indirizzaste verso quella persona. In teoria verrà qua quando ve ne andate voi, cioè dovremmo incontrarci tutti e tre subito dopo. Magari appunto vi lasciamo i vostri studi, ma se riuscite a fare il passaparola con questa persona... No, no, dico, credo... se restate qua qualche altro minuto arriverà. È Giona che parla. Allora aspettiamo volentieri, certo. Ah, anzi, mi piacciono i puzzle. Beh, prego. Riapre il taccuino e lo mostra di nuovo a Giona, è quello che ha parlato, giusto? Sì. Ecco, e quell'altro fa Groan. Grandissimo. E a questo punto Adone... Mostrare... Cosa? Ci può mostrare lo streaming? Ah, volete di nuovo? Se ce l'hai, sì, grazie. Di con tanto di ossa di sotto, grazie. Sì. Okay, è fondamentale. Più fondamentale, necessario per la build. Allora, e intanto tu inizio a spiegare. No, noi stiamo avendo una vaga idea su cosa potrebbero significare questi simboli. Tipo, questo potrebbe essere... il pianeta, le stagioni, il raccolto, questi dei denti, un cuore. Siamo un po' persi però su come mettere assieme questi pezzi. Appunto, questa dovrebbe essere la domanda, indica quello indica la cosa con i quattro simboli, con i tre simboli. Dai, non rischiare. Ti ferma. L'avete chiesto voi. Quello... in alto a destra. Sì. Il primo simbolo. Certo. Sono i quattro elementi insieme. Sì, su questo ci eravamo arrivati. È un simbolo alchemico. Si usa per indicare o la... come si dice? Il processo alchemico completo con le quattro fasi. Mm-hmm. Ma anche... un anno, perché sono quattro stagioni, quindi un anno. Bianic mi butto giù dalla finestra. E Adone non reagisce in questa maniera, Adone dice... Ah! Ha senso, effettivamente. Dove c'eravamo, in realtà, mancava la conferma, però c'eravamo. Sì, quindi c'eravamo, però... Clessidre. 12 clessidre sono i 12 mesi, un pallino, un anno. Ma ne avevamo parlato di sta roba? Sì, però il rapporto lo stavo usando in maniera sbagliata, non era a mesi. Il simbolo dopo stavo ragionando per ore, io non per mesi. Il simbolo dopo sembra una clessidra. Mm-hmm. Quello dopo è il... Si guarda un attimo intorno e poi aggiunge: rappresenta una divinità. Mm-hmm. Sì. La divinità... faccia cocaio, questa la divinità che mangia i suoi figli. Turno Arva, sì, insomma, chiamalo come vuoi. E l'ultimo è... Quindi lui sa di Arva. Accademici. O forse c'è di più. E l'ultimo... L'ultimo è... la Terra è inteso come pianeta. E neanche questo ce l'avamo. Ok. Anno... E se dovessi formulare... Anno, tempo... Tempo, Arva, Terra... Giun... domanda, noi abbiamo imparato che il triangolino è un punto e un... che cazzo è il triangolino? No, è una piccolo? Differenza, l'avevate appurato. Differenza tra terra, non so, io. Differenza anno, terra, tempo. Differenza di tempo un anno nella terra. Non so. Fammi vedere gli altri. Quello in basso, partiamo. Sì. Abbiamo appurato che, visto che sta parlando di Arva, pensiamo che appunto questi siano i denti che divorano quello, il cuore, da cui c'è sangue. Pittogrammi. E poi successivamente c'è questo cubo. Sì, questo si usa in alchimia, vuol dire mettere sopra. Ok. Quindi mettere il sangue sopra, sacrificare il sangue sopra, mettere il sangue sopra. E c'erano dei triangoli, c'erano. Però... Questo era per gli altri, questo era per... Ok, scusa. Di cosa ho sentito? Ok, beh, anche qua eravamo abbastanza vicini, credo. Mancherebbe solo la... questa che è la chiave di lettura, diciamo. Ok. Il pallino nero cos'è? Cioè, il pallino nero grosso? Il cerchio nero? Una luna? Un pianeta? Una luna? Sì, ha senso. Quelli bianchi sono... delle fasi? Se il nero è la luna... bianco al sole. Il sole? Quanti soli? 3, 4, 7, 7 Quanti soli. Giorni? Può essere. Quanti sono i pianeti nell'ecosistema? Non so perché mi vengono in mente le Pleiadi, non erano 7... scusatemi. Può essere. No, 7 giorni. È vero, 7 giorni. 7 giorni e una notte. Scusate. Una settimana? Il resto. Un mese lunare? E queste sono delle stelle? Ah, se l'avete trovato sotto un tempio ci sta, il calendario Acaia tradizionale è un calendario lunare, non è un calendario solare. Ok, so this is a date. Quindi una luna sono 28 giorni. Poi sicuramente c'è un calendario lunare, sono 28 giorni. Ci sono 7. 14, 21, 28. 4 settimane. Vero. E... grazie. La matematica dico. Non è il mio forte. Ma ci avete per caso anche un matematico? Beh, credo che magari il vostro amico archeologo saprà qualcosa di amica. Più. Amica. Ah, la vostra amica. La facciamo entrare alla palobitta. State parlando di me? Cioè, il numero di tacchette sotto invece cosa potrebbero rappresentare? Sicuro che non fosse una decorazione. Aspettate, scusami. C'è una tacchetta sulla domanda. Se noi riportiamo quella tacchetta alla stessa equivalenza di tempo, in quel tempo lì, nella centrale, succede due volte. In quella di destra succede 2, 4, 6, 8 volte. In quella di sinistra succede una volta. Quell'azione che ha fatto Arva viene compiuta forse più volte? Che avrebbe senso? Fatto Arva? Non so se sei interessato a queste cose, però è associato ai raccolti, al tempo, cose di questo genere. Sì. No? Sì, è perché lo sapete. Ma non l'aveva detto prima, tipo, di aver letto lì del fatto di mangiare i propri figli. Esatto. Tipo misto sono... scrutagliona. Che cazzo non ci stai dicendo, bro? Sono uno che legge un sacco. Notte. Quindi, veramente tanto. Che hai letto di recente? Ho letto tantissima roba. Ho un'ottima memoria, io ricordo tutto quello che leggo. Beh, sì, se archivi i giornali come archivi la tua mente, direi che posso anche crederti. E no, boh, ho letto il manuale dell'area proibita sulle divinità, una roba del genere. E Deimos lo sta guardando proprio, non ne può più. Cioè, basta. Mi fa è interessantissima. Cioè, proprio fa. Dimmi di più. No, vabbè, era più un compendio in lingua antica. I culti ormai dimenticati, cioè cose del genere. C'erano le divinità arcaiche. Questo discorso ti ha ricordato qualcosa che hai letto lì? E Arva non è esattamente la divinità più famosa di tutte. Beh, nei manuali lo chiamano la divinità dimenticata del tempo. Non è proprio il suo nome, ecco. E niente, in uno di questi manuali invece verrà scritto che il suo nome Akaius era Arva. C'erano anche i nomi nelle altre lingue, se vi interessa. Quali erano? Remate, uno è Remate. In Gulakka, Fon a nord, le popolazioni. Ci sono rappresentazioni visive di Arva in quel libro che hai letto? E no, non c'erano disegni, c'erano i simbolismi e delle descrizioni. Boh. Di che tipo? La descrizione su appunto i miti legati ad Arva, però sei del posto, lo sai che la nostra cultura si basa sulle forme, quindi quando si dice che mangia i suoi figli, chiaramente è una metafora per indicare che assorbe gli altri culti, non lo so. Vabbè, io direi che ringraziamo Deimos. Vogliamo aspettare il vero. Magari ha qualche informazione. Ah, magari riesce a vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere. Esatto. Comunque, se volete venire a farci una visita perché scoprite qualcosa di nuovo, vi viene in mente qualcosa di nuovo e guarda Iona. E noi siamo al quartiere nuovo, alla chiesa di Yalos al momento. Yalos che? Prima aveva un altro nome. Si chiamava Yalos prima. Beh, si chiama... Aprono le porte. No, bastardo, figlio della mignotta. No, lo vedo ci fuori il colletto. Entra una donna. Una ragazza ventenne. Ve la descrivo molto velocemente così non vi rompo il filo. Abiti pregiatissimi, cioè quelli di voi che riconoscono queste cose, i suoi vestiti costano lo stipendio di un operaio in fabbrica per un mese. E ognuno dei suoi pezzi di abbigliamento. E con decorazioni rosse, anche il rosso ha molto particolare, eccetera. E una ragazza bella, sono tutti belli in questo posto di merda. Si vede che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, è magra ma del tipo di non ho mai fatto un cazzo in vita mia, non del tipo ah sono fit, e però spalanca la porta con forza, ha con sé un manuale alto una spanna enorme e urla i nomi dei suoi amici a sto punto. Deimo, Siona, ho qua la roba nuova, chi cazzo siete voi? Stavamo facendo delle domande ai suoi amici riguardo alla peste, alla nuova peste. Piacere, sempre con la mano destra, normale. Adone Utred. Sono... Ciao. Le casto cacca addosso istantanea. Lei è Marika. Ciao Maika, io sono Lee. Il nome è un programma, direbbe Vicenti, non Nadone. Piacere, mi fa trovare un capelli rossi. I capelli rossi ce l'abbiamo, Nibel è pronto. Un attimo. È vero. Morata. Sì. L'altezza è quella, forse. Posso avere il martello, c'è il piccone, ma stesso movimento. Dai, siamo, come si dice, a formalizzarsi. Lei è, vabbè, archeologa fallita. Fallita sarà tua madre, prima di tutto. No, io sono interessata alle materie umanistiche. In che genere? E etica ambientale, magia comparata, storia della magia naturale. Allora per lei, signorina, abbiamo una qualcosa di interessante. Magari forse riuscirà ad ottenere il suo interesse. Pick your curiosity, come cazzo si dice in italiano. Ve l'avete pescati questi? Praticamente sono venuti a chiedermi dei giornali dei vecchi e mi hanno chiesto se potevano parlare con Deimos. E credo che la ragazza conosca Deimos da prima, però non mi hanno voluto dire in che modo si conoscono. Visto di nuovo che ha una mano davanti alla fronte, sulla fronte. Possiamo andare avanti. Deimos sta leggerissimamente arrossendo e lo sguardo di Marika vi fa capire che lei ha capito tutto. Lei è l'unica che non ha una deficiente qua in mezzo, senza offesa. E io do sghignazza. No, io mi offendo, voglio ammazzare la Troia. Sei già in rivalità, puoi essere l'unico bottom qui in mezzo in questa campagna. Dai! Perché vuoi uccidermi, Adone, così cambio personaggio, me lo smettete di strattare. Fai presente il meme del Chad? Fai proprio quello, sì. Biondo. Faccio zanzan, porco, tiro, non frega nulla di vita, nulla di magia, sono... Ho 24 in forza e va, tiro avanti con un ferro armato. Facciamo il... Mi arriva una divinità davanti, un castino con un pugno e vado avanti. Anzi, ci passo attraverso perché io non ci credo nelle divinità. Con la magia, non andiamo avanti a pugni. Esatto, dicevamo. Ok, ci sono. Ho meno storia scritta che sugli altri, su Marika. C'ho veramente una manciata di righe. È una troia, appunto. Sì, esatto. Ovviamente me l'ho segnato la personalità. E cos'è che potrebbe interessarmi? Questo è un enigma. Magari può stuzzicare la tua curiosità. Sappiamo che questa è la domanda. Quindi quella cosa di destra. Ma non credo che una persona intelligente come lei abbia bisogno di altre informazioni. Intanto Adone, il passivo aggressivo, Tune down, non serve. Nel foglio in basso? I pittogrammi. Andata via la musica? Sì. Se è andato il boss, sì. Si è suicidato. La musica, com'è possibile? Io la sento. Io c'ho una musica io in sottofondo. Ma alzala, okay. Che ce la godiamo. Oh, okay. È la musica di Cosmoteer. Benissimo. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. E quei pittogrammi rudimentali si usavano 25 no, se sì, ciao. Si usavano 5 secoli prima della morte del dio della Santa Chiesa, BC. Vuol dire che qualunque luogo voi l'abbiate trovati è più antico dell'università. Ora, i luoghi del genere non ce ne sono tantissimi noti. Dove l'avete pescato? Ci risolva l'enigma e magari siamo disposti a dare questa informazione. Il sorriso. In genere i puzzle di questo tipo come risposta hanno qualcosa di semplice. C'era un meccanismo, qualcosa del genere? Delle leve da tirare? C'erano degli incassi. Sì, un cubo di marmo e degli incassi. Per ogni... Era per ogni lato, tipo? Sì. È ancora disegnato su Google 20, mi pare. Era magico? No. No. Per quanto ne sapete voi o no? No, non no, era. Per quanto ne sappiamo noi. Nessuno di noi aveva fede. Sì. No, sì, Adone ha dato un'occhiata, non c'è energia magica, quindi Adone dice avete no. Avete provato a castare delle magie su questa cosa? No, we did not. Okay. We did not, in fact. Ok. Sembrerebbe richiedere un tributo come pagamento. Di che genere? Sangue? Non lo so. E però in una certa proporzione. La proporzione deve venire fuori dall'enigma. Vabbè, nell'iconografia classica il cerchio nero è la luna e il cerchio bianco è il sole. Quindi direi che il primo rappresenta un mese. L'altra cosa non ho fatto l'idea, perché sette? Una settimana? Ah, ok. Sette. Ah, sì, la clessidra con le linee è una settimana, la clessidra bianca è un mese. È un mese. La clessidra nera, quanti sono le righette? 6, 12, 18, 24. Le ore della giornata. Quindi un'ora. E la clessidra piccola. Ho fatto voi. 20 qua, ogni stanghetta è un'ora. I 5 puntini sono. Sì. Una stanghetta sono 5 puntini. Un puntino è 12 clessidre. Ogni clessidra è un minuto. Giusto? Sì. Ok. Ragionamento filo. Ora manca capire quanti. C'era esattamente lo stesso ragionamento che stavo facendo io, ma al contrario, non so perché poi mi sono perso. E manca solo capire quale sia la domanda. Yona interviene. Si parla di un anno, si parla della Terra e della differenza con il tempo. Quanti anni impiega? No. Quanti giorni impiega la Terra a fare un giro? That's what you want. Però c'è una differenza. Quel simbolo lì, la falce. L'altro giorno hai trovato quel libro del cazzo con le divinità antiche, come si chiamava? Arva. Guarda lui, guarda lei. Arva. Era il dio del tempo. Sì. Yes. E il raccolto. Il no, non credo c'entri il raccolto, papà. Cioè, non sembra. E la differenza tra un anno divino e un anno terrestre? Ok. E in quel caso, dopo cosa? Come possiamo rispondere? Se la risposta è in mesi, settimane, ore e minuti. Dobbiamo indovinare. Sì, o cambiare le clessidre nel coso. Sì, ok. Sì, fate un tributo proporzionale. Cioè, se ci sono 5 mesi, 5 tributi alla clessidra bianca. E se c'è una settimana, un tributo alla clessidra con la linea. Posso vedere? No, moving on. Ma mi hai aiutati? Ti portiamo quello che troviamo dentro, va bene? No. Dai, dietro, gliel'avevo detto. Va bene, portati la ragazza adesso. Dai, alla fine è al massimo crepa, che ne sappiamo? Hai il tuo tributo, ha detto. Io prendo Adone da parte un attimo. Ok. Ti dico. È più importante tenere nascosto il tempio o la tua situazione di salute? Ci serve, diciamo, qualcosa per contraccambiare il loro aiuto. Una delle due cose sicuramente li potrà azzittire, però quale siamo disposti a cedere? Io credo che sia meglio evitare l'interesse di qualcuno come il capo di una centrale verso una persona come me. Possiamo accompagnare, possiamo portare la ragazza con noi al tempio ed eventualmente aspettare, allontanarla una volta che abbiamo capito la soluzione in qualche modo. Infine Mif può addormentarla. Però vale la stessa situazione anche per Arva, se si diffonde la notizia della sua posizione e arriva alla centrale. Arva, si capiscono come evocare Arva. Non credo che si farà trovare così facilmente, e dopotutto se noi riusciamo a far funzionare il puzzle, chi lo sa, possiamo tornare indietro nel tempo a prima che la incontrassimo, oppure far saltare in aria tutto, eliminare le prove. Credo che potrebbe essere un rischio che vale la pena correre, oppure possiamo lasciare così com'è quel luogo e ignorare il puzzle. Per quanto riguarda il far sapere loro la posizione del tempio, penso che dovremmo discuterne tutti, ma per quanto riguarda la tua situazione è una scelta solo tua. Io egoisticamente vorrei cercare di capirne di più e di trovare una soluzione senza coinvolgere qualcuno della centrale. Potrebbe fare più male che bene. Va bene. Ma forse tu mi puoi capire da questo punto di vista? Sì, sì, lo capisco. Cercando di capire soltanto qual è il male minore tra i due. Sicuramente non si accontenteranno di una risposta nulla. Se scegliessimo la via di rivelare la mia condizione, non credo si accontenterebbero di esaminarmi da vivo. Quello è vero. Non voglio metterti in pericolo, quindi se vogliamo dare loro la posizione del tempio, per me va bene, però dobbiamo essere pronti alle conseguenze. Vediamo. Avete avuto la conversazione mentre erano impegnati sul puzzle, quindi non hanno sentito nulla. Nessuno di loro. Io volevo chiedere, tra l'altro, se qualcuno di questi tre se non altro sa la durata di un anno divino a questo punto. Allora, Yuna fa spallucce. Lei ci pensa e Deimos dice: tutte stronzate. Ma è un come si dice? È un esercizio più logico che altro. Non siamo convinti che sia davvero dietro un'età. Sai per caso quanto dura? Eh? 365 giorni, 6 ore, 9 minuti. Quello è un anno solare. Siderale, credo sia. Siderale? Sì, sì. Vabbè. Credo intenda quello. Mi fa sorride e si avvicina leggermente verso dietro e fa: mi ricorda qualcuno da giovane. E mi ha fatto saltare in aria poi. Sa che dobbiamo andare a parlare con un prete. Dico a Mif. Devo tornare dal... Ehi, aspetta! Come cazzo è il nome di Yelos? il nome di Yelos o del prete Yelos? No, no, no, di Yel, che me lo stava per dire. Prima che entrasse... Ah, si chiama... Fine della sessione. Basta sapere. Bello come cliffhanger, eh? Cioè, piccolino, perché comunque non è niente di che, però è fastidioso. Moltissimo. È una cattiveria.